Ma io ce l'ho fatto prima di lui, me l'ha capito. Silenzio la vecchia! Si appena. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Avvelli, e mi faccio i cannesi. Ormai è tutto degradato. Ha ragione Taormina, ormai è tutto finito, tutto uno schifo, solo maiali, porci, froci, gay, lesbiche, è tutto finito, è una merda. E voi, sfigati, te e quel frocio di Parenzo, sostenete la merda. Ma dove volete andare? Uno che sostiene la merda, al massimo la merda la puoi mettere nei campi per concimare, poi non serve altro. Ma andate a fare in culo. Oh, coglione, c'è la tua sorella! Vaffa al culo! Perché molti dicono, ma è un mille proroghe, masticarsi dal mille proroghe, tu lo fai chiamare come da fare. Grazie Roberto D'Agostino, no, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Ragazzi, ma la vera super cazzola, caro Parenzo, la vera super... Il regista è sempre lo stesso, no? Sempre lo stesso. L'ho capito da questa carrellata, da questo florilegio, questa antologia, antos logos, no? Questa antologia di parole. Che hai detto? Parla come magna? Antologia deriva dal greco, antos logos, no? Questo fiore florilegio di parole, questo insieme di cazzi che volavano. Non ti addentrare troppo nelle spiegazioni, perché spesso poi sbagli, spesso poi commetti degli errori, no, anche tu. Amico mio, sai quanti me li segnalano di errori che fai? A voglia. Comunque, ragazzi, la vera supercazzola è la scissione del PD. E questo è importante. E le discussioni all'interno del PD. Io appena sento qualcuno pronunciare parole sulla scissione o no del PD, metto mano alla pistola. È una cosa insopportabile. Lo diceva Goebbels a proposito della cultura. Ma non c'entra niente. Qui è da mettere la mano alla pistola ogni secondo. Senti questa aulica discussione tra Speranza. Signor Speranza, tu vuoi scommettere che se uno chiama qualsiasi cittadino italiano dice: lei conosce un signore che si chiama Speranza? Beh, sì. La maggior parte delle persone dico: scusi, che cosa, di cosa sta parlando? Dice, fede, della speranza, speranza nel futuro? No, fede, speranza e carità. Fede, sì, speranza e carità, le tre virtù teologali, come lo ben conosce, sai. Nessuno lo conosce. No, non è vero. Nessuno. Ma no, me lo dico con rispetto. Però facciamo nessuno. Una prova, non è vero. Speranza è vero. Mieli, senti. Speranza e Paolo Mieli, perché... La mia preoccupazione è che questo weekend sia veramente un weekend decisivo. Magari. Il weekend decisivo. Ragazzi, De Luca sempre il numero uno. Senti, la gente sarà disponibile anche a un regime autoritario se andiamo avanti così. Si rischia di dare vita ad una situazione nella quale, per una persona normale che ha 3.000 problemi, di cui le chiacchiere della politica politicante non tengono conto nel modo più assoluto, cittadino normale sarà disponibile anche ad un regime autoritario, quale che sia, pur di farla finita. Ancora De Luca. Si parla ormai da settimane di scissione. Se lei mi domanda si fa la scissione per quale motivo preciso, io non glielo so dire, sinceramente. Allora, leggevo l'altro giorno su un giornale, caro David. Allora, correnti di maggioranza, Graziano Del Rio, Area sì. Dem, Dario Franceschini, sì. Giovani Turchi di Matteo Orfini, piano, Giovani piano. Turchi di Andrea Orlando, sì. Sinistra e Cambiamento di Maurizio Martina, Renziani Ortodossi guidati dal Giglio Magico, Renziani Ortodossi vicino a Paolo Gentilone, Gentiloni, ex popolari, Beltroniani, poi dall'altra parte Bersaniani, Cuperliani, Michele Emiliano, Enrico Rossi, Bindiani, Lettiani. Non ne possiamo più, non ne possiamo più. Scarpi. datemi Sgarbi, vi prego, su qualsiasi argomento. Qualsiasi argomento è meglio di questo, piuttosto che le correnti del PD e le scissioni all'interno del Partito Democratico. Qualsiasi argomento è meglio, qualsiasi. Non bevo Coca-Cola. Non bevo Coca-Cola. Quindi sono un terrorista. Io non bevo quella spremuta di merda che è la Coca-Cola e capisco i terroristi che non la bevono. Mi sembrano abbastanza bene. Puoi capire come è fatta una spremuta d'arancia, una spremuta di pesca o una spremuta di fica. Sai bene come è fatta, no? Ma come è fatta la spremuta di Coca-Cola? Qual è la materia prima? La merda. Io perché devo bere la merda? Ma perché si è attaccato alla Coca-Cola? Non capisco perché, no. Perché si è attaccato alla Coca-Cola, è incredibile. Poi dopo aver sparato a zero contro Totti l'altro giorno da noi, dicendo che è un cretino, che non capisce niente, aveva detto carpe diem. Non parlo inglese. Non parlo inglese, parlo. Dice anche che Totti è amico dei delinquenti. Questo è esagerato. Il Totti che vuole lo stadio non è uno sportivo, è un amico dei delinquenti. L'altro giorno, caro Davide, ho sentito una difesa dei politici da parte del signor Rotondi. Te lo ricordi, Rotondi? Ma come? È tanto no, tempo certo. Che non ne parliamo. Ha scritto un libro a favore della casta. Sì, mia introduzione, tra l'altro. Signor Rotondi, che dice i politici lavorano notte e giorno? I politici lavorano notte e giorno? Il politico lavora notte e giorno? La politica, converrai con me, che non si fa solo in Parlamento... E si fa H24 notte e giorno. Ma il vero politico c'ha sempre il telefono acceso. Dai, vabbè. Lavora notte e giorno. A Venezia Brugnaro vuole mettere in cella gli ubriachi, cella e cauzione per gli ubriachi. Se uno è ubriaco e offende le persone in giro per la strada, bisogna prenderlo e portarlo via. Lo portiamo in una cella di sicurezza di un comune, paghiamo noi e il giorno dopo esce con una cauzione di 500 euro. Vedrai che non lo fa più. Allora, sulle palme a Milano, caro Parenzo, Salvini insiste, dice i clandestini sì. Ci sono già, gli mettiamo anche la palma, sentiamo. Lo ha scritto ieri, abbiamo combattuto ieri a Piazza Pulita su questa roba. Io non faccio la guerra alle palme, ai datteri o ai cocchi o ai banani. Diciamo che in Piazza Duomo, così come in Piazza Roma, probabilmente vedrei di più altri arbusti, però, altre scelte. Il buon Salvini... Ma visto come versano alcuni quartieri di Milano, sì, vabbè, tanto clandestini ci sono già, gli mettiamo la palma. Comunque dicono che c'erano già nell'Ottocento le palme, no? Sì. Pare, hanno detto anche che non so quante ce ne sono in giro nella per Milano. Nella sala del Consiglio Comunale di sì, Milano ma chi a Palazzo se ne Marino frega? C'è il simbolo, l'effigie, il simbolo della palma. Ma chi se ne frega? Questo non vuol dire nulla, non vuol dire è niente. È una icona. È un orrore, è ma un orrore estetico. Ma non c'entrano gli immigrati? Per tre anni. No, ma non c'è, ma certo non che non c'entrano gli immigrati. Un valore estetico. Guarda, quando è che ti un orrore estetico. Posso avere una mia opinione sull'estetica di Piazza del Duomo? Sì, no? Però francamente mi fido di più di Achille Bonito Oliva di Vittorio Sgarbi. Ma chi lo dice? Vittorio Sgarbi pensa che sia un orrore, infatti. Sì, a me non dispiace, è una roba così, va bene, ma non è una... A te non dispiace. Me ne frega, francamente non me ne frega niente. Il tuo amico islamico là, come si chiama? Piccardo? Un tuo amico islamico? Sì, tuo amico islamico Piccardo. È uno che conosco, non è un amico. Un tuo amico, un tuo conoscente islamico dice anche, beh, adesso che ci sono le palle palme, possiamo tranquillamente metterle, sì, e cominciare con una moschea a Milano. Ha fatto una battuta. Beh, ha fatto una battuta. Dopo le palme, la moschea. Dopo... Tu quante moschee vorresti a Milano, Parenzo? 3, no, 4, 5? No, tre cose. Me ne basterebbe una, così si chiude quella di Viale Jenner, che è illegale. Se ne fa una dove si sa chi mette i soldi, viene garantito il diritto al culto, che è un diritto sciocca costituzionale. Sciocca la zanzara, Parenzo. Sì. Voglio una moschea a Milano. Sì, ma no, voglio io. Voglio gli stati. Voglio una moschea, sì, a Milano. Esatto, signor Parenzo. Eccola qua. Eccola qua. E poi raccolgono le voci per strada sulle palme a Piazza del Duomo. Non lo so, i telegiornali dalla vostra parte, eccetera, eccetera. Ma no, no, assolutamente no. In Africa? Siamo in Africa, appunto, c'è il nome. Cioè, è ridicolo. Non ho niente contro le palme, però secondo me le palme non sono proprio per un clima mediterraneo. Allora, il Papa oggi ha detto, il Papa oggi ha detto che non c'è nulla, che il terrorismo non ha nulla a che fare con l'Islam. Capito? Il terrorismo signor non ha nulla a Papa, fare con... Signor Papa, senti, senti, naturalmente è l'interpretazione di quello che ha detto. Il terrorismo islamico non esiste. Il terrorismo islamico non esiste. Così ha detto. Le migrazioni non sono un pericolo, sono una sfida per crescere. Il terrorismo islamico, nessun popolo è criminale, nessuna religione è terrorista, non esiste il terrorismo cristiano, non esiste il terrorismo ebraico, non esiste il terrorismo islamico, capito? Sì, e questo mi sembra. Ma è una stronzata, una stronzata. Esiste il terrorismo islamico, non esiste il terrorismo cristiano, non esiste il terrorismo buddista, non esiste il terrorismo ebraico, esiste il terrorismo islamico, invece esiste, esiste il terrorismo islamico. Mi dispiace per il Papa. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Sì, buongiorno signor Parenzo, qui l'ufficio del personale del gruppo Sole 24 Ore. Purtroppo non riusciamo a contattarla al telefono e volevo solo anticiparle che la direzione si è riunita per discutere sulla sua richiesta di chiusura della trasmissione e purtroppo non è stata accettata in quanto ci sono precedenti accordi con gli sponsor. Per contro sono state accettate le sue immediate dimissioni. Se cortesemente può lasciare il computer portatile aziendale al nuovo giornalista che verrà, si tratta di del signor Sammy Varin, ha lavorato in una piccola emittente, non so se lo conosce. Comunque ecco, abbiamo proceduto a effettuare l'ultimo bonifico in quanto non possiamo più continuare a remunerarla per effetto immediato delle sue dimissioni. La ringrazio comunque per aver lavorato nel nostro gruppo, grazie. Stamattina ho visto Parenzo, poi ho tirato l'acqua e non l'ho visto più. Allora, però Rotondi non ha detto semplicemente che i politici lavorano notte e giorno, sì, che sì, si fanno un mazzo così, ma anche che è più faticoso fare il politico che fare il contadino. Questo mi sembra una cazzata. Tanto attribuendolo ad un altro, che è un deputato del PD che fa anche il contadino, che faceva il contadino. Comunque sentiamo. Fare il deputato è molto più faticoso che lavorare nei campi. Solo i medici della Camera, un attimo, conoscono l'effetto dello stress e della scomoda posizione di immobilità sui duri scranni di legno tanto ambiti, ma tutt'altro che confortevoli. E Rotondi, avete esagerato però, no, perché di fronte a una storia come quella di Ivana... Non l'ho mica detta io, c'è un collega che è un parlamentare contadino del Partito Democratico che racconta la sua esperienza di contadino e di parlamentare e dice che la seconda è più faticosa. Sì, ma... Allora andiamo con Enrico, provincia di Milano. Vai Enrico, vai, vai. Oh. Pronto? Dimmi, pronto? Dimmi. Sì, ciao ragazzi. Niente, volevo appunto raccontarvi che io sono un ragazzo di 30 anni che ormai fuma canne da 18 anni, Sì. E mi cioè, sembra. Tu non ho capito, normale, c'hai 30 anni? Normale. No, no, fermo. Ah, ti fumi le canne da che età? Da 18? Da quando? 12. 12, la prima canna ai 12, poi serialmente iniziate ai 14. 12 mi pare un po' prestissimo. Sei fatto una canna a 12 anni? Una canna, due canne, così dai 12 ai 14. Ai 14 ho iniziato a fumarle spesso. Ma che cazzo hai fatto iniziare a 12 anni? A 12 anni hai fumato? Ma che c'è? Sì. Pare una sciocchezza. Per provare. Per poi provare, a 12 anni, a 12 anni. Esatto. E i tuoi che cazzo dicono a 12 anni? Che non se ne sono i accorti? I miei, non tutti e due, ho solo il papà. Mio padre, quando mi ha visto la prima volta, mi ha detto che cos'era, che cosa, che effetto faceva, lo sapevo. Però mi ha detto, mi raccomando, non fare il coglione con questa cosa, non si scherza. Se vuoi fumarla, fumala, e se la fumi, fuma roba buona. E così a 12 anni, appunto, a 12 anni tuo padre ti ha fatto sto discorso. A 12 anni, a 15 anni, poi a 14 anni amalgamato, diciamo, fumare le canne, quindi lì appunto non è stato, non mi ha fatto nessuna punizione, mi ha insegnato che non era una roba grave. Non ho capito, ve le siete fatte insieme? No, poi insieme, sì, beh, successivamente ha iniziato a far, cioè non ci trovavamo per farcele insieme, ma mi veniva a trovare in camera mia e diceva vuoi pirla, e poi si faceva anche due tiri anche lui. Ma roba da pazzi, ragazzi, nulla di grave. Oggettivamente questo non è la normalità, però cioè non è che succede dappertutto che, non è la normalità, che padri però e figli si fanno le canne insieme, dai, no, su. Non ci facciamo le canne insieme, di fatti, anzi mi ha fatto il culo tutta la vita, ho lavorato anche un anno si faceva lui, il culo? Entrava in stanza tutti i giorni sentiva l'odore d'erba la mattina alle 8. Ok, io, ma entrava nella tua stanza, entrava nella tua stanza, si faceva le canne insieme a te? Che no, ti faceva il culo? Tiri, poi usciva. Ma ho capito, non è che succo, ti faceva il culo. Vabbè, ma perché mi vuoi raccontare sta roba? No, ti voglio raccontare questa cosa perché secondo me il fatto di lavagna è una cosa dovuta molto anche ai genitori. Cioè i genitori oggi non si parlano direttamente con i figli. Ma io non lo so, questo se è ovvio, dai. Il figlio chiaramente fatto sta che essere oggi, fatto sta che oggi, ieri il generale della Guardia di Finanza, quello che ha fatto, ha comandato l'irruzione o comunque la perquisizione a non casa lo rifare, detto che non lo rifarebbe. Potendo tornare indietro non rifarei quel blitz, che è la cosa che ho detto il primo giorno, però adesso non voglio avere sempre ragione. Il primo giorno, Riccardo, provincia di Macerata, dai, qui abbiamo un popolo di canaroli che ci chiamano ogni sera, incredibile. Riccardo, ragazzi, vai. Secondo me, ragazzi, voi avete un senso proprio di completa ignoranza sull'argomento che no, è guarda, totale, ignorante totale. Sarai allora, te innanzitutto. No, io no, ignorante nel senso che non sapete i meccanismi e le metodiche dell'assunzione della cannabis, soprattutto. Sì, ragazzi, vediamo, sentiamo il professore, dai. No, noi non sono un professore, tra l'altro sono qui con un mio amico che fa professore, ne parlavamo ieri sera. Non avete un minimo di idea come quel dissociato deficiente di Duccio Vanardi, che è un altro, che non c'ha una minima idea dell'assunzione, del perché, del per come, eccetera. Allora, la maggior parte dei ragazzi inizia a quell'età, 12-13 anni, come diceva l'ascoltatore precedente. Perché? Perché la maggior parte dei ragazzi... Ma nessuno risposta inizia a 12 anni, ragazzi, ma di che state parlando? Io, guarda, ho 36 anni, ho finito da pochissimo il liceo, molto prima di voi, quindi ho una recente... Vabbè, allora... Allora, la maggior parte l'ha finito a 12 anni il liceo, lei, scusa. No, ha detto adesso, a 36 anni l'ha finito prima di noi, dai. Ho finito prima di voi. Allora? Allora, la maggior parte dei ragazzi inizia a fumare droga leggera, gli spinelli, alle superiori, ai primi anni. Questo è vero. Spostandosi in corriera dal paese che dove abitano al paese che gli... Vabbè, ma con questo ottica, cosa vuoi dire? Non ho capito. Voglio dire che la maggior parte dei ragazzi fuma droga leggera. Non dico un numero esagerato, l'80% tu dei ragazzi... Tu hai spacciato qualche volta? A me è capitato, ma perché che vuol dire è capitato? Non è che uno spaccia così a cazzo di cane. Te lo spiego, Cruciani, te lo spiego subito. Tra l'altro te lo spiego perché. Ieri parlavo con quel signore di Brindisi, a cui è stato trovato il figlio, ha trovato con un chilo e mezzo, sì. Allora, innanzitutto non è vero che la teneva per deposito, perché non esiste. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso questo. Quando hai spacciato tu? Nel periodo delle superiori. Cioè spacciavi con gli amici, perché? Cioè vendevi per fumarla, per averla gratis. Cioè, nel momento in cui tu spacci, non spacci per un ritorno economico, pochissimi lo fanno. Per cosa lo fai? Lo fai per avere quel quantitativo di sostanza che ti permette. Vabbè, è uguale, di... la stessa cosa. Perché non c'hai soldi? Perché la ho capito, dunque sono indirettamente sono soldi, perché attraverso, cioè spacciando te la danno soldi gratis. Amico allora, mio, nel così. Momento, per esempio, noi siamo un gruppo di, fai conto, 10 persone. Serve a tutti l'erba? Sì, perfetto. Allora si fa una colletta, si compra. Ma tu ancora fumi a 36 anni? Sì, certo che ancora fumo. Quanto così, fumi? No, così spesso fumerò una canna al giorno. Una o due canne a settimana. Prima fumavo molto di più. Molto di più. Cioè io E il cervello non ti è andato in pappa, no? Guarda, io faccio il tecnico radiologo. Tecnico radiologo? Sì. E se tu prendi l'80% della popolazione adulta, tutti hanno qualcosa a livello encefalico. Se io ti faccio una risonanza, se io faccio il 100% della popolazione una risonanza magnetica al cervello, tutti hanno qualcosa. È molto peggio l'alcol che le droghe leggere, però l'alcol cos'è? È legale. Ah, ma lo so, ma su questo sfondi la porta. Certo che è legale. Parlavo ieri col professore, con questo amico mio che fa il professore, è molto, lui dice, sai quanta volta... Cioè, tu vuoi dire, si demonizza troppo la cannabis, questo è il punto. Allora, si demonizza troppo la droga. I ragazzi fumano, la cosa intelligente da far arrivare ai ragazzi è fumare con responsabilità. Vabbè, ma quello lo sappiamo, quindi mica stiamo a fare gli insegnamenti. Ma ho capito, ma non dobbiamo fare l'insegnamento di niente noi. Mauro Massa, grazie Riccardo. Mauro Massa, vai. Bella. Dimmi. Luciani, ascolta bene, va. Io 10 secondi fa ho chiamato Radio 24 per dire che praticamente sono favorevole alla come si dice, moschea a Milano, così almeno quando sono tutti lì li bruciamo tutti, no? Sì, una puttanata, sì. Certo che è una puttanata, chiaro, sì. Ma mi avete subito messo in onda. No, guarda, come sei bravo, coglione, come sei bravo. Coglione sei tu. Sei un poveraccio, sei un poveraccio. Sei un poveraccio. No, vero, Giovanni da Terni, sei un poveraccio. Giovanni da Terni, poveraccio. Allora, Crucerani, ci sei? Sì, dimmi. Oh, finalmente, senti, io ti ammiro tanto, sono sintetico, però stasera mi stai proprio sul cazzo, anzi già da ieri sera. Perché, dimmi. Hai attaccato sto pippone perché le palme sono brutte, e ci hai rotto il cazzo con queste palme che sono brutte. Perché, che c'hanno? Ma guarda, semplice, ma tu non te rendi conto, te e quegli altri beduini della Lega. No, allora, ma io non ho detto, niente, io non ho fatto nessun discorso che riguarda... Le palme sono la cosa più importante. No, dico, ma le palme a Piazza del Duomo, a me non me ne frega niente delle palme. E basta, tutte le ma devi stare, devi stare tranquillo. Allora, difende le palme, difende le palme. No, calma, calmatevi, ragazzi. I posti più belli del mondo sono le palme. Ma che me ne frega a me? Aspettami, le palme vanno bene a Miami, vanno bene a... Ma perché? Vanno bene a... Fermati un secondo. Ma l'avete vista? Ve l'avete vista voi o no? Certo, ma mi sembra una cosa. Ma non bello, è bello le palme a Piazza del Duomo. Ma ragazzi, ma che no? Siete impazziti allora? Ma veramente siete matti? Siete? Cioè, non avete un minimo di senso di estetica. Che non saranno per sempre. Tre anni. Un minimo di senso di estetica. È un orrore. È un po' di verde, un po' di verde. È un orrore. Tra civiltà. Ah, allora c'è la questione delle civiltà. No, lo io vedi? Lo dico così. E allora lo dici così, non, cavolo. Non credo che Starbucks abbia questo fine. Ma è un orrore. Punto e basta. Una cosa estetica. Praticamente orribile. Andiamo avanti. Lasciati un parenzo e alla defecarsi non ci penso. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Senti, io ti ammiro tanto, sono sintetico, però stasera mi stai proprio sul cazzo, anzi già da ieri sera. Hai attaccato sto pippone perché le palme sono brutte, E ci hai rotto il cazzo con queste palme che sono brutte. Understand? Ci siamo dimenticati che non era Lores, era Bianca da Udine. Sì, quella di Understand era Bianca da Udine. Sai tanto che non chiama quella lì. Signora Bianca. Meno la male, signora va, Bianca almeno da una l'abbiamo eliminata, meno male, va. No, ma che eliminata? Sarà viva Vegeta e Lotta no, insieme a noi. Eliminata dalla trasmissione. Ma quando mai? Ma per fortuna. Ma quando mai? Meno male. Ma quando mai? Una di meno. Ma una che di una meno. Di meno? Che sei impazzito? Una di meno. E dico sei masochista, cioè. Meno uno. Ma meno che un pazzo. Uno. Ma da un'altra parte ne rimangono altri 2.945.000 che chiamano, quindi. Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare. E chi è questa Bianca? Chi è? Questa era sempre Bianca. No, secondo sì, me. Sì, Bianca. Ah, è Bianca. Riccardo dalla provincia di Chieti, vai. Oh. Pronto? Dimmi Riccardo, dimmi. Sì, volevo chiedere a David Parenzo a Chieti, come mai lui sta, secondo me sta esagerando ultimamente. Il suo ruolo, anche un'altra cosa che avevo detto, è quello di scatenare l'ira delle persone, di determinato tipo di persone. Ruolo, ma ultimamente, come ieri... Qual è il tuo problema? Che cosa è successo? Ah, allora? No, che sta esagerando, diventa insopportabile, veramente, cioè, rivoltante. come ieri ha trattato la signora Cannizzaro. Sì, ma la signora? Scusa, non ho capito, che è amica tua la signora Cannizzaro? È amica tua? No, chi la conosce? Ma non si può trattare così una persona con quel problema. Sarà Quale stata problema? Fascista. Qual è il problema del fascismo? Quello è un problema, effettivamente. Non ho effettivamente capito, ha un problema la signora, è neofascista e questo è un problema, esatto, no, ha detto perché, bene lei. Perché no. Questo consente di calpestare una persona come non fareste. Ma calpestarla, sa, se lei ha sentito la diretta di ieri, ha percepito un certo astio dell'adorabile signora nei miei confronti, mi pare, no? Visto l'eloquio che ha usato. Parenzo, l'ha scatenato lei. Ma qual è il problema, Riccardo? Scusa, non ho capito. Ma non ho capito, qual è il tuo problema? Non possiamo prendere per il culo la signora Cannizzaro? Semplicemente perché ha il marito in galera condannato a 3 anni e 10 mesi, ma chi se ne frega? A me piace quando prendersi per culo, però c'è il limite a tutto. Ma al limite chi lo dice? Che lo decidi tu? Ma lo decidi tu qual è il limite? No, non ho capito. Non posso decidere io il limite, però posso dirti, secondo me è esagerato. Vabbè, Andrea d'Arezzo, dai. Ciao ragazzi, buonasera, ciao Giuseppe, ciao David. Senti, io vorrei dire che secondo me le canne fanno bene, non fanno male. Ragazzi, fanno che bene. Vuol dire le canne fanno bene? Dai, su. Ma aspetta, fammi dire, secondo me le canne fanno bene in alcuni, ad esempio, ci sono molti posti in cui sono curative. Usare la cannabis è usata in maniera curativa. Questo è c'è. Ti voglio portare il mio esempio per primo. A parte il fatto che una canna in mano a un 14enne è un conto, una canna in mano a un 40enne è un altro discorso. Perché ci sono dei quarantenni rincoglioniti e dei 14enni molto più sì, col cervello dei quarantenni, per cui non è questione di età, è anche questione di età, ma non solo, dai. Sì, però il fatto è che può dare una dipendenza psicologica sui 14 anni, ai 40 anni è più difficile. Vabbè, Andrea, allora? Dipendenza. Sì, per esempio, io ti volevo dire, io ho avuto dei problemi con l'alcol e piuttosto che prendere degli psicofarmaci per riuscire a stare sobrio, mi aiuto e la sera mi faccio uno spinello, mi calma, mi mette a mio agio e anche questo direi che è una cosa... E tu sei un ex alcolista che oggi sì, ti fai le canne, ogni sera ti fai una canna. Per l'esattezza sono un alcolista in astinenza, si dice così, quando non bevi questo va benissimo, sì. Per carità, se riesci a trovare un equilibrio fumando delle canne puoi fare quello che ti pare. No, era per dire che potrebbe essere, poi volevo dire un'altra cosa, scusami, io credo che ci sia molta ipocrisia anche comunque intorno all'argomento delle droghe, come diceva Bill X per esempio. Come diceva, scusa? Bill X è un famoso comico, a cui ha rubato le battute Luttazzi anche, lui diceva una cosa straordinaria, diceva se siete contrari alle droghe, prendete il 90% dei vostri dischi, tutta la produzione mondiale e buttatela via e non ascoltate mai più i Doors, i Pink Floyd, vabbè, vecchia storia, però allora non può essere così, dice una canna mi fa schifo però poi ti ascolti Doors a manetta perché Jim Morrison ti sputa dall'altra. Ma che c'entra? Ma non c'entra niente, non è che uno non è che se ti piacciono i Doors devi per forza fare canne o devi forza essere antiproibizionista, non per forza, puoi anche essere contro le droghe, anche le droghe leggere, ed essere possono piacere i Doors lo stesso, che minchiata è questa qua, non è che se ti piacciono i Doors. Io credo che sia un po' ipocrita pensare a un Keith Richards che è uno sballato, accettare la sua musica, vedere i suoi concerti, vedere le sue cose e poi pensare, poi magari dire oh si fa una canna cazzo, e poi finisce come ieri che si è ammazzato un ragazzo di 16 anni per 10 grammi di fumo, dai, c'è un po' di ipocrisia. Ciao, grazie. Tipi da Zanzara. C'è Fabrizio da Milano, vai, Fabrizio sereno, da Milano. Clima sereno. Fabrizio, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Ciao, volevo dire una cosa a Parenzo, sei un grande, veramente. Sei un grande uomo di merda, sei. Ma chi? Uno. A chi? Ma perché? Che è successo? Non ho capito, che è successo? Allora, di cosa sta parlando? Perché si butta così giù? Perché lei si butta così giù? Perché parla così dei suoi familiari? No, ma non dica così. No, Fabrizio, che cosa vuoi? Ma non dica così della sua famiglia. Perché definisce così i suoi genitori? Perché? Io anch'io sono fascista e sono fiero. Abbiamo il numero di questo, vero? Abbiamo il numero di questo qua, vero? Di telefono. Beh, ha detto che è fascista, che ha fatto? Dimmi il numero di telefono, 3. Dammi il numero di telefono, 3. Dammi il numero di cellulare di questo qua. Sono tatuato dalla testa ai piedi. Bene, dammi il numero di questo. I miei tatuaggi sono fascisti. Fascista. Hai chiamato la moglie carcerata a prendere la per il culo. carcerato, certo, di un fascista condannato, di un fascista condannato a tre anni e dieci mesi. Ma lo sai che comunque io esulto, ma non me ne frega niente del comunismo, ma non me ne frega niente del comunismo. Sono felice che un neofascista sia finito in galera condannato, esulto. Io comunista lo uccido gratis. Che tatuaggi hai addosso? Tutti metà fascisti. Ma che c'hai? Con che... noi, contro di noi, molti nemici, molto onore. Ho detto Brevati, gladiatore, costito molti nemici, molto onore. La faccia di Mussolini ce l'hai o no? La faccia di Mussolini? Per forza, io dormo con sopra l'armadio. Sull'uccello l'ha fatta, però. Il naso è l'uccello, sarebbe. Lì l'ha fatta la faccia, bravo. È una bella idea. È una bella idea tatuarsi la faccia di Mussolini sui genitali. Questa è una bella idea, coraggiosa, come ardita. La faccia tua di Fidel Castro, ardita. Tutti voi comunisti. Ma io non mi tatuo proprio niente. Tu sei classico. Ma figurati. Potresti come tatuarla anche dietro quella di Mussolini, no, sai? Funziona. Funziona. Falla. Che sei un Tipi da zanzara. Signor Fabrizio, era il signor Fabrizio. Enrico da Treviso, andiamo avanti. Enrico, vai. Sì, buonasera, ciao. Vai, dimmi. Piccola considerazione. Sono tutti bravi, sono tutti buoni dopo che sono morti. La realtà è una. Se la mamma chiama la guardia di finanza per redimere il figlio da un qualcosa che fa male come l'hashish, significa che probabilmente tanto buono non era sto ragazzo. Ma che vuol dire tanto buono non era? Cioè, che ti metti a fare il prete? Che sei? Ma no, che prete. Ma che vuol dire tanto buono non era? Cioè, si fanno tante follie. Ho capito, ma ragazzi. Ma tu allora senti, il comandante della Guardia di Finanza ha fatto un'intervista oggi, uscita credo sul Giorno, dicendo quello che ha ordinato la perquisizione, dicendo che col senno di poi, ovviamente, che forse è stato un errore. Questa è la realtà, cioè potendo tornare indietro non rifarei quel blitz, e mi sembra abbastanza chiaro, no? Potendo tornare indietro, io l'ho detto sin dal primo giorno, è un dato di fatto. Entra la guardia di la finanza non ha nessuna responsabilità, perché non è che l'hanno messo al muro, l'hanno minacciato, cioè non risulta tutto questo. Anzi, pare che ci sia stato un litigio, non so quanto forte, ancora non si sa, tra la madre e il figlio dentro casa. Comunque la guardia di finanza entra dentro casa, fa la perquisizione, trova quello che deve trovare e quello si butta dalla finestra. Questo è un dato di fatto. La finanza non ha responsabilità, questo è evidente. Però è un dato di fatto: senza quella perquisizione, senza l'intervento della madre che chiama la guardia di finanza, quello non si ammazza. Vabbè, questo ma è un dato. Magari si butta dalla finestra lo stesso. Però non sappiamo del conflitto tra la madre e il figlio. Ma appunto, la madre magari pensava fosse l'ultima chance, no? L'ultima chiamata, non aveva l'ultima chance di che? Non è che risulta che questo caso sia stato seguito all'ultimo stadio. Magari non sapeva come uscire da questa situazione, aveva magari questo è un gesto estremo, grosso, mi pare. Ma significa che il problema era grosso, perché prima di chiamare la guardia di finanza, di chiamare la polizia, va bene, Andrea Lecce, vai. Ciao Cruciani, salve. Dimmi. No, intanto qua volevamo dirvi che siamo in 4-5 e tutti quanti abbiamo iniziato a fumare più o meno intorno ai 11-12-13 anni. Ma figuriamoci, non diciamo sciocchezze. Ragazzi, dai, su, ma non diciamo puttanate. Forse in alcuni posti d'Italia tu hai iniziato a fumare a 11-12 anni, le canne. Io a 13, la mia segretaria qui a 11, il mio amico ma qui a 13. Ma quando mai? È stata inventata. Ma perché dobbiamo dirti una stronzata? Passami la tua segretaria. Luana, senti, Cruciani ti vuole chiedere se hai fumato la vita. Vieni, Cruciani è un nazista. Sì, nazista, nazista tuo nonno. Non ti vuole parlare, dice che sei un nazista. Ma nazista è suo nonno, passami un po' questa deficiente. Nazista sei deficiente. Passamela questa cretina. Mio nonno era un partigiano. Ma tu non sai, ma non sai nemmeno che vuol dire nazista, tu deficiente. Cioè, tuo nonno partigiano di che cosa? Partigiano? Della brigata di una brigata. Ma quale brigata? Bravo. Chi sta parlando? Luano o questo Andrea? No, dimmi tu invece di che cosa. Ma non sai nemmeno che significa nazista. È colpa delle persone come te che l'Italia fa cagare, perché ti fanno parlare. Sì, invece tu che fai? Quelli come te, dove li manderesti? Dimmi, dove li manderesti? No, dimmi, dove li manderesti? Perché bisogna parlare dei nazisti? Luana antifascista. Fermo lì che dopo me la passi. Ferma, dove siamo capitati? Ma chi sono questi qua a Lecce? Ma perché vi dovremmo dire delle storie? Perché la gente devi stare tranquillo, fermo. Tu, Luana, state fermi là se volete. State fermi là che torniamo tra un attimo. Adesso la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Pacchettieri là, comparezzo, la Zanzara quando scorreggi nella macchina mette il ricircolo dell'aria con i finestrini chiusi, questa è la Zanzara! Abbigliamento Cruciani, mutandone di lana sgommato rigorosamente sul posteriore, camicia bianca pezzata di sudore e abito nero stile frac. Abbigliamento Prenzo, microscopico per i zoma rosa, compreso di strass e brillantini, jeans blu risvoltato 32 volte e giacca decoro scozzese presa a suo dire in prestito direttamente dal camerino di Oscar Giannino. Corso prematrimoniale alle ore 9, mentre andiamo in macchina sento la Zanzara, la mia ragazza. Ma cos'è questa cosa, questi individui di una bassezza morale così? Niente, mi sa che non mi sposo più. Cruciani, ho appena ritirato la macchina nuova, una cazzo di Toyota. Mi hanno chiesto, vuole sensore di parcheggio? Vuole il safety sense? Vuole i PCS? E io, ma che cazzo me ne frega, gli dico, c'è la radio, sintonizza tutta la di 24, metti la Zanzara. E allora l'ho comprata. Mamma mia, non siamo al top, siamo malati. Luciani, ti odio da quando il mio ragazzo vi ascolta. La sera quando torno a casa dal lavoro non mi caga più, vi odio. Per non parlare di quando mi tromba, che canta continuamente, a pecora ovviamente. I nani, i nani, i nani. Parenzo, Luca, Luciani, Luca. Tornerei dai gentili signori di Lecce, caro Parenzo. Il regista è decisamente sempre lo stesso, decisamente. Andrea, allora passami Luana un altro. No, Luana parlando di nazista. No, ma passami Luana. Dobbiamo parlare di questo. Ridammi Luana, ridammi Luana. Vabbè, hai iniziato a 13 anni, tu, vabbè, 11 anni, 12 anni. Ma a parte il fatto che, vabbè, la gente vi dice Luana fuma o non fuma? Luana fuma o non fuma? Luana non fuma più. Quando è iniziato Luana? Ha iniziato da 11 anni e ha smesso, non lo so, a 24, 25. Passamelo un secondo, un attimo. Aspetta. La cosa importante qui non è che... Vabbè, ma adesso non è che ci devi fare la lezione. Adesso ci devi fare la lezione sulle canne. Il problema, non la lezione sulle canne, il problema è che qui il fatto che viene demonizzata questa roba fa ovviamente scattare determinati processi mentali in un ragazzetto di quell'età che, litigandosi con la madre, potrebbe ovviamente... Adesso non è che stai a fare la lezione di sociologia su quello che è successo alla madre. La sociologia cruciale, che il punto è questo, qua viene demonizzata. Ma io è dal primo giorno che dico che la madre, secondo me, ha fatto una cazzata a chiamare la guardia di finanza. Sin dall'inizio. Ma quale nazista? Chiamami Luana, che sono ancora incazzata. Luana dice che sei nazista, ma per altri motivi. Quella è vegana. Ma non mi interessa, chiamala. È vegana, ma è vegana. Ma chi se ne frega, appunto. Lei è nazista. Dai, Cruciani, ti vuole dire quelle cose. Dice che sei... Siccome sei vegana, sei più interessante. Vieni qua, parla con Cruciani. Ma che cazzo? Passamelo un secondo. Guarda che è incredibile. Ma cosa fa? Vediamo se hai coraggio ancora. Pronto? Cioè, non ho capito. Io sarei nazista? Perché? Spiegami. No, questa cosa mi fa incazzare particolarmente. Perché sarei nazista? Spiegami. Per quello che hai fatto, lo sai. Ma quale? Cosa? Ho fatto tante cose, amica mia. Ho fatto tante cose qui alla radio. Dimmene una. Sai quello che hai fatto? Cosa ho fatto? Dimmi. Parlo con cognizione di causa. Ma cosa ho fatto? Dimmi. Ho portato il coniglio qua. Cosa ho fatto? Ho portato il coniglio morto, comprato peraltro in una macelleria. Cosa ho fatto? Non hai fatto, secondo me, una cosa gradevole. E mi dai del nazista per questo? No, ti do del nazista poi per tante altre cose. E perché cosa? Però adesso non mi va di parlare con te, mi stai un po' sul cazzo. No, ma appunto, ma devi avere le palle di spiegarmi... Devi avere le palle per dirmi perché Luana, mi hai detto nazista. Vuole parlare con Luana. Mamma mia, ragazzi, non c'hai coglioni. Basta sapere che è nipote di un partigiano. Ma non hai coglioni. Dice che non c'è le palle. No. Non hai coglioni. Tu ti pippi la coca, ma di che stiamo parlando? Io che faccio? Ma chi pure ti pippa la coca? C'è un borghese, si sa che ti pippi la coca. Ma tu sei quello che hai detto è la dimostrazione che sei un imbecille. Cioè, è chiaro che sei un imbecille. E tu comunque ti pippi la coca. Sì, ma sicuro, guarda, te lo dico per certo. Mi tipo due grammi al giorno mi faccio. A parte che non mi vergognerei per niente di dirlo. Ti pippi la coca. E allora? Mettiamo che sia così. Ma infatti sta dicendo una stronzata. Ma è una poveraccia, semplicemente una poveraccia. Cioè, diglielo, ha detto Cruciani, sei una poveraccia. Dice Cruciani che sei una poveraccia, ma perché non stai, cioè, non ti stai a dire niente, tu vedi? Non gli dici un cazzo. No, beh, lascia perdere, ciao Andrea. Ma dove state? Dove state? In uno studio d'avvocati, in uno studio di disgraziati, dove state? No, noi siamo dei programmatori, facciamo programmi. Fate cazzo, dai. Siamo dei cervelloni, capisci? Sì, vabbè, programmatori, dicono tutti i programmatori, fanno un cazzo, dai. Io ascoltate la radio mentre lavorate. Fanno un cazzo, ciao Andrea, ciao. Ciao Cruciani. Fabiana da Roma, vai Fabiana. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Volevo dire, ciao. Ma io non ho figli, per carità, però sì, posso dire che io ho assolutamente rispetto e per questa mamma di lavagna, e che forse proprio estrema razio per salvare un figlio dalla droga, perché io considero la canna al pari delle altre droghe. Dell'eroina, la canna è uguale all'eroina. Secondo me è l'anticamera. Sì, quindi, l'anticamera, questo figlio, mio nonno me lo diceva 50 anni fa. No, io se avessi un figlio di 14 anni, 15 anni, se facessi una canna, io grosse bastonate. Bastonate, bene, ma è una... con le bastonate... Al di là di questo, non si può criticare la madre. Bastonate, tra virgolette, ragazzi, Si dice sempre così, tra virgolette, poi si usano i bastoni, quelli nodosi. No, ma non... Oppure la cintura, che ne so. No, per carità, assolutamente no, però... Ma io non sto accusando nessuno. Qui stiamo parlando in presenza di un ragazzo morto, di una madre che ha fatto un discorso in chiesa, che è stata applaudita. Disperata. Ma grazie, non c'è bisogno di dire. E la prima disperazione è stata quella di chiamare la Guardia di Finanza, ad esempio. Ma io la quello prima non lo so. Per me è stato un grande errore. È stato un grande errore, però detto secondo questo. Secondo me, una mamma disperata, probabilmente io certo. Voglio pensare che prima di fare questo abbia fatto, perché io ho letto tutto quello che... Ragazzi, ha chiamato lei all'inizio. Sì, ma non come primo intervento. Come no? Non lo so come primo intervento. Comunque alla fine l'ha chiamato lei, dai, su. Cioè... Però io credo che per salvare un figlio che magari era, secondo lei, perso, certo. Io non me la sento assolutamente di condannarla e voglio dire, voglio sfatare sto mito, perché adesso sembra che farsi le canne sia figo e non farsele sia assolutamente demodé. E quindi questo. No, ma nessuno dice qui, molta gente ci chiama raccontandoci che si fa le canne da quando aveva 11 anni, da quando ne aveva 13, eccetera. È una cosa gagliardissima. No, io non faccio l'esaltazione di nulla, io non me le sono mai fatte, ognuno racconta la propria esperienza. E una cosa è certa, se uno non è che si fa le canne automaticamente poi si fa di eroina, come è evidente da molte persone che ci chiamano, non è assolutamente... Sì, però io ieri ho sentito un ragazzo, un tuo ascoltatore, che se ne fa 3 al giorno. E ognuno fa quello che vuole, che dobbiamo fare? No, ma c'è gente che si fa 4 birre, c'è gente che si fa 4-5 birre ogni giorno, beve un litro di vino ogni giorno, e allora? Ma infatti è comunque una dipendenza, sia che sia... tossicodipendenza o che sia alcolismo, è comunque una dipendenza, è comunque va bene Fabiano, ho capito, ciao, ciao, grazie, ciao. Belli, e mi faccio i canne, sì. Alberto da Parma, vai Alberto, vai. Ciao Crucia, ciao Parenz, tutto bene? Vai, dimmi. Ciao caro. Ho appena fatto un cannone, sono tranquillo, vedi, non è che sto agitato. Ragazzi, abbiamo trasformato gli ultimi 3 giorni di questa trasmissione in una sorta di grande ricettacolo. È un coffee shop questo qua, non è una radio, è un coffee shop. Un leone tranquillo. Allora? Allora volevo dirvi che siete simpatici, ma un po' mi state sui coglioni. E perché ti stiamo sui coglioni? Perché sapete tutto voi, non si capisce sta storia qua, ma sapete sempre tutto voi. Sì, noi siamo... Che cazzo vuol dire? Non mi spiegami. Vuol dire che sapete sempre tutto voi. Sì, sappiamo voi tutto. Voi siete il non plus ultra, voi siete... Vabbè, dai, ti sei appena fatto una... dimmi una cosa sensata, dai, su. Trova un po' di lucidità, ritrova un po' di lucidità. Una cosa sensata. Trova lucidità, ragazzi, mi sono fatto una canna, un po' sono fuori, sono carico, mi sono fatto anche un bicchiere di whisky. Pure whisky con la canna, amico mio, certo. Però, come stai ridotto? Al whisky alle 8:15, alle 7:30, 8:15 ti fai whisky aperitivo, più una canna. Aperitivo. Ma dai, aperitivo. Su, dai. Dai, su whisky, quanti anni hai, scusa? It's norm, 47 anni. Quante canne ti fai? io me ne faccio 5, 6 alla settimana. Praticamente una al giorno. Una al giorno, qual è il problema? Ma no, ognuno fa quello che vuoi, per carità. Si vede ragazzi, qual è il problema. Una canna al giorno, leva il medico di torno, lo sanno tutti. Anche un bel bicchiere di whisky. Sì, vabbè, whisky, canne, mettiamo, che vuoi fare ancora? Scusa, Cruciani, lo sai che Tony Blair, quando ha fatto la guerra in Iraq, dillo al tuo amico Parenzo, che lui sicuramente lo sa, ha scritto nel suo libro, Tony Blair, che si prendeva l'aiutino, beveva il whisky, beveva la sera, beveva il bicchiere di vino, perché aveva le tensioni. E beh, allora? Tony, vabbè, ciao Albe, ciao. Ma è con noi, caro Parenzo, ritorna alla Zanzara dopo un po' di tempo, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, buonasera. È vero, non mi avete più chiamato, proprio. Mi hanno rimasto solo, come diceva quello di... Sti gran figra mignotti. La colpo dei soliti ignoti. Certo, mi hanno rimasto solo. Iniziamo da una cosa, iniziamo da una cosa molto... Lo stadio della Roma è Sgarbi. Sgarbi ha detto di Totti, il tuo amato Totti, l'altro giorno, che è praticamente un cretino, pensante come la Raggi, è così ha detto che... Totti ha fatto quello che la società gli ha chiesto di fare, parliamoci chiaro. Beh, ho capito, che fai allora? Non ha autonomia Totti, cioè gli dicono di fare una cosa. È anche un calciatore che forse condivide il progetto e che comunque è uno che prende dalla società diversi milioni di euro. Insomma, e dunque la società gli ha detto di esporsi sullo stadio. Mi pare che quella sia stata un'azione promossa dalla società, che ha fatto un progetto esagerato, perché è giusto che una squadra come la Roma possa avere uno stadio di proprietà, ma quello è un progetto di una città intera. Dunque, tu sei la Juve, ha lo stadio di proprietà. Vabbè, no? Dice un'altra cosa. Ma allora... è giusto ambire ad avere uno stadio di proprietà e fare un investimento. Quel progetto però è una metropoli, l'avete visto, tre grattacieli, un intero quartiere. Dunque tu sei più grillino della Raggi da questo punto di vista. No, dico che è giusto che si faccia uno stadio, non ho capito se quello è un progetto di uno stadio o di una città. In realtà l'ho capito, l'avete visto l'impianto? Sì, grattacieli. Mi pare un po' troppo. Beh, bellissimo, tutto l'indotto darà lavoro, farà girare un po' di economia, ristoranti, cose. Ma io non sono contrario allo stadio. Dico che quel tipo di progetto forse si può esaminare. No, però è vero, da questo punto di vista Gasparri è più grillino dei grillini. Cioè in questo momento... No, io sono Gasparrino, guarda, grillino lo dirà, ci sarà lei, ma guarda, una banda di sciagurati simili, guarda, nemmeno se estraeva la sorte 30 cittadini poteva finire così male. Cioè tu dici che un cittadino estratto a sorte fa meglio della Raggi? No, io parlo del complesso. Vabbè, la Raggi, se uno estrae un cittadino di Roma, qualsiasi è meglio del sindaco. C'è più probabilità che sia migliore. Sì. Cioè, addirittura. Può anche capitare peggiore, ovviamente. No, vabbè, senso, certo, però c'è più possibilità. C'è il 60% di possibilità che sia più capace. Comunque, vabbè, Sgarbi, attaccate il tuo mito Totti, non vuoi rispondere a Sgarbi su questa cosa? No, che ma io non sono d'accordo, perché Totti a Roma è amato, è un simbolo. Quindi Totti dice quello che vuole, se vuole parlare dello stadio, va. Totti a Roma, io sono uno di quelli che quando Totti entra in campo, adesso per questi scampoli di partita, mi alzo in piedi e gli batto le mani. Vabbè, ho capito, può dire anche cazzate. È una bandiera, è uno anche autoironico, perché ha fatto della sua presunto reale ignoranza un mestiere con quegli spot pubblicitari in cui fa la presa in giro di Totti e ci fa pure i soldi. Poi per quanto riguarda lo stadio, può darsi A, che condivida il progetto, B, non mi sfugge che un signore che ha un contratto di alcuni milioni di euro con la società, che gli dirà: oh, Totti, dacci una mano. Cioè, alla fine, che ne so, può anche magari ci una prestazione crede professionale. Ma magari ci crede. Ma no, ma magari lo fa perché ci crede davvero. Ma che c'è? Magari ci crede davvero invece su quella puntata di quel progetto. In quel progetto. Ma no, ma secondo me il progetto manco ha guardato. Che gli frega. Perché secondo lei i giornalisti del Messaggero fanno articoli contro Caltagirone, cioè sono prezzolati da Caltagirone, no, dici te? Beh, sì, quello hai detto. Devono tenere conto dell'editore. Allora, beh, faccio una puntata contro, se no uno cambia giornale. Guarda, no? Che noi parliamo di Confindustria come ci pare, Maurizio. Parlate come pare? Sì, come ci pare, ti posso assicurare. Male, allora, parliamo no, male. Ma se vuoi parlare male, puoi parlare male tranquillamente. Noi non abbiamo no, dico che è realismo, voglio dire. Siamo una grande isola di libertà. Questo ma che vuol dire, scusami, uno che scrive sul Secolo d'Italia non è che può scrivere che Mussolini è uno stronzo, però scusami, no, ma che giustamente lo faccio per dire, può darsi pure, cioè, oppure un diverso parere, uno lo ospita. Senti, a comunque, proposito di hai visto mai Saviano, a proposito della vicenda della droga, Saviano. A proposito della vicenda della madre, no, del ragazzo che si è buttato, eccetera eccetera, dice che, di te, di Giovanardi, che insomma speculate su questa vicenda e soprattutto che non sapete niente, questo è il punto fondamentale. Noi abbiamo mandato un'articolata risposta a Repubblica, spero che la pubblichino, con dati su quello che è successo in America, sull'aumento della diffusione. Ma voi avete la posizione di quella del proibizionista. Noi conosciamo le cose, lui ci ha detto addirittura che abbiamo agito con dolo. Sì. Io non agisco con dolo, noi diciamo la verità, lui ha detto sciocchezze, lui sostiene la legalizzazione delle droghe. Beh, anche noi. Quel ragazzo di quella tragedia di Lavagna, come tanti altri consumatori di droghe leggere, sono minorenni. Le proposte per la legalizzazione dell'hashish, della cannabis, riguardano i maggiorenni, perché non è che si può pensare di dare ai ragazzini di 14 anni, 15 anni droga di Stato. Quindi Saviano sia coerente. Tu dici non c'entra niente, non c'entra niente. Sostenga la legalizzazione anche per i minorenni e arrivi a questi livelli di sfrontatezza e di irresponsabilità se ne ha il coraggio, perché la sua tesi è aberrante, infondata e sbagliata. No, ma è una lasciamo... persona che non conosce questi temi, è una persona ignorante in questi e in altri campi, che definisce dolose le nostre posizioni, che sono io aiuto i tossicodipendenti a uscire dalla droga. Io se avessi conosciuto Saviano da ragazzino l'avrei pure poi accompagnato in una comunità a ritrovare un equilibrio psicologico che mi sembra non abbia. Ma scusa, non ho capito perché è da mettere dentro una comunità, secondo te, per quello che ma dice? Ma guardi, come equilibrio, uno che insulta la gente in questo modo non è un equilibrio. Lui ma può sostenere la sua tesi, ma dire che ma è dolosa la nostra posizione è diffamatorio. E vabbè, io, li ha trattati, dice, li ha trattati, li ha trattati allora, come... Signor Saviano che dice che non abbiamo umanità, io ho salvato i ragazzi dalla droga portandoli in comunità, non faccio i soldi sulle tragedie altrui, io aiuto chi sta in una tragedia. Ma chi è che fa i soldi con le tragedie altrui? Ma chi dice queste cose? Lui rete la disumanità. Ma Saviano ha testimoniato, ha scritto dei libri di importanza civile contro la mafia, contro la... ma che c'entra? Io combatto la droga. E lui che soldi ragazzi ha fatto? Ma cosa dice? Io non consento a questo signore di dare patenti agli altri. Ma chi stai? Nei film tratti dalle opere di Saviano, lo sapete che hanno lavorato dei camorristi che sono stati arrestati sul set? E che ne sapeva lui? Ma che c'entra? E che ne sapeva lui? E che ne sapeva? Mica ha fatto il regista del film. Ma mica che ne sapeva lui, ma stai pensi scherzando? Non ho detto che li ha scelti per quello, ho detto che voi nel vostro partito in passato avete avuto degli esponenti condannati per concorso esterno, però voi nel vostro partito in passato, no, ma scusami Gasparri, ma che c'entra? Ma come che ce ne sapeva la produzione? A voi è successo di aver avuto dei deputati che sono stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa. Maurizio, mi scusami, tu ti stai dicendo che Saviano con i suoi libri, con le serie che se ne sono uscite fuori, eccetera, ha esaltato la camorra, ha aiutato la camorra. Non ho detto questo. No, ma è una domanda che ti faccio. Che lui non ha il titolo di rilasciare patenti morali e non può dire che noi siamo privi di umanità. Io e Giovanardi abbiamo salvato centinaia, migliaia di ragazzi, quelli che lui vuole fare morire con la droga ma di Stato. Figurati. Lui vuole fare morire i ragazzi con la droga di Stato. Noi li salviamo dalla droga. Ma lui che non vergogna. Lo sa, perché non vive una vita nella gente, tra i problemi delle persone. Ma vive con la scorta, cioè, vive con la scorta. Ho capito. Ma che c'entra? Accompagni cioè, quelli che sono per la liberalizzazione delle droghe sono degli assassini, non ho capito. Dalla morte, dalla droga, li porto nelle comunità. Invece Saviano che fa? Aiuta. Non lo so cosa faccio, non si occupa di questo. No, però aiuta la gente a morire con la droga. Vuole dargli la droga di Stato che ma che vuole morire dargli? Ma certo, che ha fatto, certo, ha fatto una delle migliori inchieste sul commercio della droga e su come lo si toglie dal commercio dalle mafie internazionali. Ma che dici? In malafede vuole dare droga, quindi morte alla gente. Ma figurati se vuole dare droga, vuole togliere le narcomafie, no? Vuole togliere il monopolio delle narcomafie. Come Gratteri e Borsellino. Gratteri non la pensa come lui, Gratteri combatte la camorra realmente, non con i libri, con gli arresti, con l'azione coraggiosa. Viva Gratteri, viva Borsellino, nemici della droga di Stato. Ma Saviano è un finto, altro che Saviano. Ma Saviano è una finta icona dell'antimafia, allora, cioè una icona dell'antimafia. Sono Borsellino o Gratteri? È una roba farlocca, cos'è? Detto no alla droga legale e ha dimostrato. Vabbè, ho capito, però c'è anche un'altra posizione, Maurizio. Io per esempio sono a favore della legalizzazione, non per questo voglio come Saviano, non la pensi come Saviano. Ho capito, ma non voglio dare la morta a nessuno su questo, oggettivamente. Ma ti faccio una domanda, scusa. Però non dico che tu sei un coglione, un criminale. Attenzione, non dico che tu non dico perché Saviano invece fa quest'altra operazione. Io sono nella stessa posizione di Saviano e poi piglia per il culo Gasparri e Giovanardi. Io penso che la posizione di Gasparri e Giovanardi sia legittima, ma io mi oppongo a questa posso posizione. Posso farti un'osservazione però? Dimmi. Allora, i due terzi dei consumi di cannabis sono di minorenni, poiché la legalizzazione viene proposta per i maggiorenni, perché non è che si può proporre per i minorenni. Vabbè, si può proporre ci anche sarebbe comunque lo spazio illegale per quel mercato dei minorenni, o no? Quindi non eliminate nessun narcotraffico. Non ha sbagliato, capito? Non ha sbagliato la madre a chiamare la Guardia di Finanza. Oggi il generale ha detto in un'intervista. La madre era disperata. Ci vorrebbe uno Stato in cui gente come Gasparri e Giovanardi, che appoggiano le comunità, tendano la mano a chi vive quel dramma. Ho capito, ma il comandante della Guardia di Finanza, ma tu fai benissimo ad aiutare le comunità, questo va benissimo, questo, per carità. Ma il problema non è questo. Il problema non è questo. Sto dicendo, il generale della Guardia di Finanza oggi ha detto che probabilmente il blitz non andava fatto. Ripensandoci. Io ti dico che a una madre che io ricevo tanti appelli di madri come quella e parlo con questi genitori e li convinco ad andare in una comunità, non è che gli vado lì con la paletta e la pistola spianata. Dopodiché il problema è di uno Stato che non fa più un'azione di prevenzione, vabbè, di recupero, quella... perché è condizionato. Ha fatto bene a chiamare le guardie, parlano della droga legale, cioè... Ma tu perché non mi hai risposto? Saviano è un cialtrone. Io dico che chi vuole la droga legalizzata sostiene una tesi. È un cialtrone, hai detto che è un cialtrone. Non ho detto, Seriano. Beh, sì, è un cialtrone. Anche te. Allora, non hai risposto. Ma no, ma i minorenni no. Ma allora, che c'entra? Allora, i due terzi della cannabis, rispondi a questa domanda. Li prendono i minorenni. Se non gliela vendi quella legale ai minorenni, lo spaccio rimane o no? No, rispondi. Ma, sì, ma Maurizio, il discorso è un altro. Si può autorizzare a 16 anni, a 17 anni, anche prima dei 18 anni. Ma sì, ma a 17 anni che differenza? Cioè, ma la droga leggera, non la droga, la cannabis, l'hashish, c'è un'altra cosa. Droga. Ti posso mandare tonnellate di studi che dimostrano, vabbè, i danni che fanno al cervello. Se dite che non fa male, in Olanda è uno stato criminale. Aspetta. Aspetta un secondo. La Zanzara. Ha scritto oggi cose false, in malafede, vuole dare droga, quindi morte alla gente. Viva Gratteri, viva Borsellino, nemici della droga di Stato, altro che il Graziano. Piccolo riassuntino di quello che è accaduto finora. Sì. Siamo in collegamento con il vice. Beh, certo, erano le parole tue. Due minuti fa, per forza. Vicepresidente del Senato, Maurizio Cassone. Ma che te a Borsellino, ci mancherebbe. Allora, altro. Però, se tua figlia si facesse le canne, che faresti? Quello che faccio, guarda, lui mi fa questo esempio. Io tutti i giorni vivo questa esperienza aiutando comunità terapeutiche. Se tua figlia ti facesse. Con persone che vivono questo dramma. Ma se tua figlia si facesse le canne. Farei quello che faccio con quelli con cui parlo. Guarda, non è che tutti quelli che fumano le canne vanno in comunità. Concretamente li convincono ad affrontare un percorso in una comunità per uscire dalla droga. Porti tua figlia in comunità se si fa le canne. Ma non mia figlia non ha questo problema. Per mettiamo che tu è stata ben educata e sa benissimo che cosa sia la droga. No, scusami, quindi, Maurizio, facciamo un esempio. Tu scopri oggi che tua figlia si fa le canne, che fa? La porti in comunità? Mi comporterei come mi comporto con tutte le persone che vivono questo dramma. Io è un dramma fumarsi le canne oggi. Domanda, è un dramma fumarsi le canne. Un po' esagerando. Quelli che hanno una vita teorica. Io vivo la vita in mezzo alla gente. Ma anch'io, ma che vuol dire? Ma io conosco benissimo tutte le comunità del mondo. Cosa? Userei il sistema del convincimento. Vabbè, quello d'accordo. A tua figlia, ma che recupero? Sì, ma non è che chi si fuma le canne è un tossicodipendente. Appunto. Certo che è un tossicodipendente, ma perché anche la cannabis crea dipendenza. Ma ho capito. Il tetraidrocannabinolo fa dei danni. Però scusami, Maurizio. Nella cannabis c'è più principio sì, attivo. Sì, va bene, d'accordo. Non diffondete messaggi sbagliati. Ma quale messaggio? Chi fuma allora tu vuoi dire oggi droga. Un adulto che fuma la canna è un coglione? È un coglione. Oggi chi fuma la canna da adulto è un coglione? Oggi chi fuma la canna da adulto si distrugge. Ma è un coglione. Ma non devo dire l'aggettivo per farti contento. Fa no, una cosa farti contento. Sbagliata. Vabbè, d'accordo, questo che lo sappiamo. Si danneggia e deve smettere di farlo. Vabbè, d'accordo. Che perché ti è una droga. Ma è pieno di gente che lo fa e che lavora normale, tranquillamente. Ma lavora tranquillamente e vive tranquillamente. Perché erano di mafiosi. E mica hanno ragione perché sono tanti. Stai criminalizzando, ma stai criminalizzando veramente milioni di persone, probabilmente. Ma è un errore, caro Parenzo. Stai criminalizzando milioni di persone. Non sto criminalizzando. L'Olanda, cos'è l'Olanda? Un paese criminale, l'Olanda? L'Olanda. Ma l'Olanda, cos'è? Scusami. Siamo parlati addosso, ragazzi. No, ti voglio chiedere. Ma l'Olanda per te cos'è? Un paese criminale, l'Olanda? Allora, mi fate parlare, cazzo. Dai, vai, siamo qua. Come Sgarbi. No, ma ho capito, ma l'Olanda, ma io faccio questo, ma per una vita, allora, ha fatto, per una vita ha fatto il coso l'Olanda, per una vita ha avuto, ha avuto la droga legale. Sentite ragazzi, vi saluto, vi siete fatti una canna perché state un po' anzi, ma cocaina, che canna, ma che cocaina, sì, ma sì, la mi cocaina in no? Parlamento c'è la cocaina, no, e ci sarai che combattetela, che mi frega, no, allora posso parlare, vai. In Olanda stanno rivedendo le politiche che sono state sbagliate. Negli Stati Uniti, laddove hanno liberalizzato la canna, si sono aumentati i consumi. Insomma, vabbè, ho capito, se non mi fate parlare, ma che aumentati i consumi, ma no, ma che non c'entra, ma no, io capisco il tipo di trasmissione, ma non c'entra niente, Maurizio, non c'entra niente, hai sputato finora sull'ottimo Saviano, scusa. Aspetta, allora mi fate parlare, e che vuoi dire sul Colorado, sono aumentati ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma tua, chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché, no, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma la che gente. C'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? Propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Ma che sei pazzo? Noi spacciatori, legalizzazione. Ma richiamalo subito. Ma quale spacciatore? Ma che sta scherzando? Ma che scherzi, spacciatori? Oh! Pronto? Maurizio, ma che sei impazzito? Che spacciatori? Sei? No, hai rotto i coglioni, non mi stai facendo parlare. Ma siamo un rapporto ma spacciatori! Leale. Ma spacciatori, ci hai detto spacciatori! Siamo spacciatori, hai detto! Ma che sei impazzito? Sì, perché propaganda della droga e quindi... Ma che propaganda? Ma perché essere a favore perché della legalizzazione? Essere a favore della legalizzazione significa propagandare la droga, ma che certo, dici? Certo. Ma non è vero, dai! Io sono a favore della legalizzazione... Comunque, guarda, siccome non fate parlare... Non è corretto. Sì, ma non possiamo scontrarci sui dati del Colorado. Capisci che è una follia? Scontrarci su. La verità è una follia per voi. Ma qual è la verità? Spiegami. Ma qual è la. Dimmi, spiegami qual è la verità. La tua verità. Qual è la verità? La verità. Mi fai parlare o no? Dai, forza, dai, dimmi. E stai zitto, però. Ho capito, ma se tu non parli. Allora, negli Stati Uniti, dove è stata introdotta la legalizzazione, sono aumentati i consumi di cannabis e anche verificare. Gli incidenti stradali collegati. Ma è da verificare. E vedi che non fai parlare. Ma non è vero! Ma cosa mi chiami a fare? Sei un bugiardo! Ma non è vero questa cosa qua! Ma perché? Un miserabile cialtrone. Ma perché? Ma perché? Ma roba da fare, richiama. Io adesso. Andiamo avanti così. Cioè, in Colorado sono aumentati gli incidenti stradali. Ma ragazzi, ma non scherziamo. Ma non è vero, su. Dai, su. Vabbè, dai, non vuole parlare, dai. Colorado, vediamo che è successo in Colorado. Aprite voi Google, quelle diavolerie che avete davanti, ma e mettetevi Colorado. Ma cosa gli vai dietro? Ma che c'è del Colorado? No. Ma quello mi ha dato dello spacciatore, ma richiamalo fino a domani mattina. La trasmissione non si può interrompere qui. Fino a quando non ripariamo con Gaspari, io rimango. Un momento. Rimango qui ad occupare la postazione della Radio 24 fino a quando il senatore Gasparri non si presenterà al mio consesso per dire che sono uno spacciatore. In faccia me lo devi dire. Rimango qui, non c'è Giannino in onda, non esiste più Barisoni, rimango qui manu militari occupata la radio del dottor Roberto Napoletano fino a quando non parlerò con Gasparri. Allora rimango, aspetta, qua, mi comunicano a me poi le conseguenze sul cervello delle persone, un'altra cosa, dopo un anno dall'introduzione della droga legale di Stato in Colorado, meno incidenti innanzitutto, e meno, che cos'è meno? Più entrate per lo Stato, più soldi per lo Stato e meno incidenti. 2015, eh? Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Allora, marijuana Colorado un anno dopo, meno reati e incidenti, più soldi per l'aereo. Magari poi ci saranno anche altre informazioni, non lo so, perché poi si possono prendere i dati da una parte e dall'altra, come al solito, no? Mi richiamate per favore Gasparri, perché io ho un rapporto con Gasparri, eh? Cioè non è che ci può chiudere, date degli spacciatori, siete dei miserabili spacciatori di morte, ma che siamo matti? Poi naturalmente anche il settimanale Tempi dice: Colorado, i danni della marijuana legale, più giovani fumatori, più ricoveri in ospedale, più morti. Poi ognuno la vede naturalmente dalla parte sua, dai. Va bene, dai ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Ivan da Cuneo, vai Ivan. Sì, pronto, ciao. Dimmi. Io volevo, avevo telefonato per insultare Gasparri, ma ha messo giù. Beh ragazzi, ma non è che qui se uno chiama voglio insultare Gasparri, comunque dimmi quello che devi dire, dai. Eh no, ma è un mio diritto, scusa, io ti ascolto e devo insultarlo. Allora? Perdonate, mi hai dato un messaggio vocale. Allora, niente, praticamente, guarda, Gasparri è una vergogna per l'Italia, ma non deve smettere di dire ste cazzate. Cioè, cosa? Beh, vergogna. Ma dice che l'incidenza è aumentata, ma se ne inventa. Ragazzi, però questa, robe, lui ha una posizione legittima, che è quella proibizionista. Non è che può dire a noi siamo degli spacciatori di droga, no, dei miserabili. Ma che spacciatori? Anche quello, dice ma non ti faccio parlare, stai parlando, parli e puoi dire quello che ti pare. Ma sei un pazzo. Ma non so, pazzo, ma vattene un po' a fanculo. Vabbè, vabbè, adesso questo, che cazzo vuol dire? Non c'è Gasparri, non ti può rispondere. Adesso non è che poi però per carità, qui si può dire tutto. Va bene, Iva, che vuol dire? Però, oltre guarda, a mandare niente, la... solidarietà, ragazzi, voi combattete. Ma non c'è, non abbiamo bisogno. Ah, no, no, bravo, solidarietà, blocchiamo la trasmissione perché siamo stati aggrediti. Intervenga la Federazione Nazionale Stampa Italiana, sciopero da ora, fine. Siamo stati aggrediti. Sentivo che anche il compagno Capanna era d'accordo, quindi grande. Il compagno Capanna, anche sì, il compagno Capanna, Capanna, compagno Capanna si faceva le canne, si faceva le canne con pazzo. Un momento. Silvio D'Alessandria, vai Silvio. Dobbiamo vai. Riparare sì. al vulnus che Pronto? Si è creato in questa sì. trasmissione. Ciao. Sì. Ma secondo me sono due muti che parlano con due sordi, cioè tu non ti sei mai fatto una canna in vita tua. Gasparri neanche, che cazzo ne parlate a fare? Beh, ma che c'entra? Io qualche canna me la so fatta. Ma questo non significa niente, non è che non si può parlare di canne no, se uno non parlare. Se le fa, non dire stronzate no, pure no, te. Ma io dai. Guarda, non sono uno che fuma abitualmente, anzi, sono anni ormai che non fumo, però le canne me le sono fatte. E non me ne sono neanche fatte poche. Però sono una persona assolutamente normale, con una vita assolutamente normale, con una famiglia assolutamente normale, faccio un lavoro anche di molta responsabilità, quindi... Quello che state dicendo tu e lui, io non ci credo che tu non ti sei mai fatto una canna di Gasparri. Vabbè, non ci credere, e non ci credere, e non ci credere. Ma non era per questo, non era per né criticare né Gasparri, però voglio dire, di queste questioni qua, cioè probabilmente bisogna avere dei dati e bisogna averle magari anche provate. Cioè, perché finché si parla di legalizziamo la droga perché almeno non guadagnano io le voglio, mafie. Io penso, naturalmente, avendo letto, essendomi informato, eccetera, eccetera, che la legalizzazione della droga leggera, sul resto ho vari dubbi, naturalmente, la legalizzazione, anche se si possono fare delle sperimentazioni, la legalizzazione della droga leggera sia un vantaggio. Un vantaggio per chi comunque quella droga, se la deve andare a procurare, un vantaggio per lo Stato, una diminuzione dei danni che comunque provoca, punto e basta. Non c'è. Poi dopodiché io rispetto anche la posizione di Gasparri, questo è il punto. Rispetto a Saviano, carità, che lo considera un coglione. Certo, io invece la rispetto la posizione. Droga, e invece ci ha insultato. E invece ci ha insultato dandoci degli spacciatori. Vabbè, d'accordo, saremo degli spacciatori. Che ti devo dire? Nel senso, però, cioè, parlare quello ha salvato delle vite. Cioè, adesso uno, se è un cannabinoide, è ovvio, ha qualche problema. Ma se uno si fa una canna ogni tanto, non deve salvare la vita, non deve venire salvato da nessuno. Adesso mi ha mandato un messaggio in cui, se sei scorretto, impedisci di parlare, tu la tua spalla, sto al gioco del tipo di trasmissione, mi ha impedito di parlare, sulla droga ha fatto una propaganda irresponsabile. Mi ha arrivato un altro messaggio, a quell'altro mi ha dato un messaggio, tu non meriti ma nulla. Ma non è che scriva un sarei libro, io, no? Ma, come, ma perché mi dici così, Gasparri? Ma stava parlando... A quell'altro ho mandato un messaggio, tu non meriti neanche commenti, va scritto. Ma tu non è una follia. Ma perché? Ma stavamo parlando, certo, a modo nostro stavamo parlando, ma se mi viene a dire in Colorado a parte che vorrei vedere Gasparri che convince qualcuno. No, ma io discuto volentieri con Gasparri, ma se mi date lo spacciatore mi cazzo, ma che discorsi sono? Ma c'hai ragione. Ma che scherzi? Ma lui si dà dell'autosalvatore, io per la carità, però una cosa è fermo là. Siamo al top ragazzi. La Zanzara. Adesso parliamo seriamente, siete due pagliacci che non fate parlare la gente. Io non faccio la spalla dei pagliacci. Arrivederci. Fate la propaganda della droga. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Capito? Voi propagandate la droga. Siete due spacciatori, mascalzoni, delinquenti. Andate a fare il culo. senza controllo sanitario. Appunto. Potrebbe essere applicato anche non necessariamente a qualche nostro ascoltatore questa frase, non necessariamente, come dire, no? Va bene ragazzi, dove eravamo? Milano, Jonathan. Però ragazzi, adesso potete, per forza le canne bisogna parlare tutta la sera. Vabbè, parliamo di canne, ormai è andato così. Dai, Jonathan, dimmi. Jonathan. Ciao Beppe, ciao David. Sì. Ciao, no, io devo parlare di canne, per quello che ho chiamato. Allora, io un po' di canne le ho fumate anch'io, sì. E io sono contro la legalizzazione. La realtà è che c'è, siamo un popolo di canaroli, questa canaioli. È la realtà. Cioè, ma sì, ma com'è che ridi? È una risata un po' da uno no, che fa ridere. Fa ridere. No, ma sembrava una risata un po' da uno fatto di canne. Però, no, Jonathan, no, no, la no. Questione è molto se quanti anni hai, scusami? 25. A 25 già ancora deve fare canne, figurati. Ma ancora, fare. No, no, io lavoro in aeroporto, non posso più, sono controllato. Allora? E ti dico che secondo me, soprattutto per i minorenni, le canne a livello psicologico fanno malissimo, portano veramente una generazione allo sfascio, perché ti ragazzi, riducono lo stato mentale. Ma dipende quante te ne fai, amico mio. Certo che se te ne fai tre al giorno, due al giorno, una al giorno, un po' il cervello, poi dipende, ti può andare anche in pappa. Esistono degli studi, lo so benissimo, ma dipende, è come se tu ti fai una bottiglia di whisky al giorno, è la stessa cosa, certo, o una bottiglia, un litro di vino al giorno, comunque qualche conseguenza ce l'hai, come tante cose, no? Ma c'è, ma certo, quello che c'entra, certo. Come se bevi però un bicchiere di vino in più. A livello psicologico, isolano e portano a uno stato di malessere. E io non sono d'accordo, le ho fumate, so cosa si prova, ho tanti amici che dovuti alle canne hanno dei problemi di crisi, attacchi di panico e varie cose, quindi io le vieterei soprattutto per i minorenni. Poi se una persona grande, vaccinata, si vuole fumare un cannone, finito il lavoro, ben venga, però alla testa, ma per i minorenni sarebbe una rovina per il paese, una rovina per l'Italia. Va bene, Francesco Arezzo, questo. Vai Francesco. Ciao. Allora, io volevo intervenire sul fatto del discorso della mamma del ragazzo. Sì. No, io dicevo, magari un genitore deve intervenire prima, ma non intervenire prima sapendo che può succedere. E deve intervenire prima sapendo come conoscere il proprio figlio e dare consigli giusti vabbè, e non avere paura. No, ma non sappiamo ma del rapporto tra la madre, non sappiamo nulla, semplicemente. No, quindi guardo, come facciamo a dar giudizi, l'educazione, la madre era poco presente, che ne sappiamo noi? Io dico, su. Se io invece che chiamare la polizia o la finanza, ci vado il mio figliolo, ma che ne sa lei che magari questa madre non erano mesi che provava a dialogare col figlio, alla fine ha pensato che l'unico modo per uscire da questa cosa fosse quello di chiamare la guardia di finanza. Ma se la stessa guardia di finanza poi ha detto che è stato sbagliato fare la perquisizione, evidentemente a fare anche dai. Loro sentiranno comunque sulla coscienza il fatto che è avvenuto questo lutto, no? Hanno paura ad affrontare anche il discorso, figlioli, che ne sa lei, che ne sa nemmeno mai prendila e chiama potendo poesia, tornare indietro non rifarei quel blitz, ha parlato addirittura di bene. Blitz, il blitz, amico mio, blitz hanno mobilitato non so qua polizia, ma figurati, mica era un narcotrafficante, un blitz a un ragazzino di 16 anni si ha chiamato la mamma, nemmeno fosse stai il peggio spacciatore, il peggio delinquente, da chiamare la mamma e hanno fatto un blitz e vorrei vedere che blitz hanno fatto, insomma, boh. Vabbè, ciao. Cesare il tassista ieri alla Zanzara. Ha un po' esagerato lei, signor Tassinaro, oggi o no? No, non credo proprio. Ma sì, me sono tenuto. Come te sei tenuto? Scusa. Come tenuto? Me sono pure tenuto perché avevo delle cose da dire, ma meglio non dirle. Ma perché è meglio non dire? È sempre meglio dire tutto, Cesare, è sempre meglio. Quello che si è perso a volte è meglio tenerlo così. Il popolo sono tante cose, il popolo sono i consumatori che prendono il taxi, il popolo sono quelli che prendono Uber, il popolo sono quelli che vanno a fare la spesa al supermercato, cioè non è che c'è il quelli popolo. Quelli che prendono Uber non è il popolo, è un abusivo, perché per fare il tassinaro ci vuole una licenza. Il popolo non è un'entità così monolitica, no, unica, dice il popolo. Il popolo non è Cesare, il popolo. È il popolo è Cesare, il popolo però è anche Zagrebelsky. Il popolo è anche Mauro Daman. No, voglio dire, il popolo. Lei conosce Zagrebelsky? Il popolo non è soltanto Cesare! È il professor Zagrebelsky, Mauro Se, anche il professor Settis, ad esempio, e ad esempio, capito? È, ma che sta di? Ma è Dario Di Vico. Ma chi conosce questi? Questa è un'elite! Ma, ancora però. Ne sta a parlare di Il popolo è anche Roberto Napoletano, ad esempio, direttore chi di questa struttura. Napoletano? Oh, mamma mia, ma ti rendi conto? No, ma scusi però, Cesare, il popolo è anche Roberto Napoletano, direttore autorevolissimo di questa nostra piccola struttura, ad esempio. E non è che il popolo è Cesare, il popolo è Roberto Napoletano, che la pensa sicuramente diversamente da lei, e capito? Chi se la frega, non ce lo dici? E la gente che non riesce a prendere il taxi, come giù, che dici oggi? Non deve prendere il taxi, andasse a piedi, che problema c'è? Ma come andasse a piedi, amico mio? Ma la gente... ma che so, io non ho capito che vada a me, io non c'ho le risposte, io so solo quello che faccio io. No, ho capito, ma ti sto dicendo, la gente oggi era anche incazzata perché magari non riusciva a prendere il taxi. E allora? La cosa che io le contesto è questo richiamo continuo al popolo. Perché le dico questo? Perché il professor Zagrebelsky scrisse un libro fondamentale che si chiama Il Crucifige e la Democrazia, nel quale il professor Zagrebelsky, appunto, sostiene che questa idea del popolo, cioè il popolo. Chi è che ha scritto questo libro? Scusa. Il professor Gustavo Zagrebelsky. Scherzi, fa una cosa, comprate Topolino, che è meglio. Caro Parenzo, Roma è ancora in subbuglio, tassisti per strada che scioperano. E insomma, Roma, la vicenda Raggi che ancora non si è definitivamente chiusa, sì, è spuntata pure una terza polizza, la Raggi che si è incazzata, dice che bisogna fare un TSO a questo, come si chiama, Romeo, eccetera, eccetera. Abbiamo con noi un personaggio che risolverebbe tutte le questioni in maniera molto rapida. Bene. Il cavaliere Mario Auriemma, buonasera! Buonasera a tutti, buonasera al popolo italiano, il popolo di Tassinari. I topoli d'assinari, che c'è il popolo d'assinari, cavaliere? Che c'è? Fanno sciopero, lo sappiamo cavaliere. Perfettamente. E allora lei dalla parte dei tassinari? Io sono dalla parte dei tassinari, sì, se ne ascoltato a me quando ho detto che in campagna elettorale, sì, ma quale radio, campagna? Ma di che cosa? All'epoca, all'epoca. Tutti i tassisti a Roma, gli autobus in periferia, gli abusivi fuori di Roma, gli stranieri fuori di Roma. Ma cosa dici? Solo i tassinari che cammina al centro di Roma. Come gli stranieri? Roma hanno votato, grazie ai tassisti fanno sciopero. Hanno votato 5 Stelle e hanno votato il Partito Democratico. Sì, ma scusami, che non capisco niente quando parla. Cavaliere, ma non ho capito, come i turisti fuori, come cazzo facciamo senza turisti a Roma? Come si fa senza turisti a Roma, scusami? I turisti a Roma stanno 2 giorni e vanno a casa. Ma chi l'ha deciso? Ma perché? Lo decido io. Ma perché? L'Italia morale. Sì, però ascolta. Scusami, cavaliere, io vorrei capire una cosa. Cazzo, hai preso un voto. No, ma vorrei capire una cosa. Cavaliere, ma perché? No, ma il cavaliere. Ma chi è cavaliere? È il cavaliere del lavoro, immagino, cavaliere, giusto? O no? Amica, adesso do una bomba e sta bomba bisogna da conserva tutta la vita tua. Che è la bomba? Qual è la bomba? Dimmi. Questa è la bomba grossa, ricordati. Sentiamo, dai. Allora, lo stadio da Roma non si fa. Perché uno mangia troppo al Comune di Roma. Questa è la bomba. Questa è pazzesca. Se ne discute da giorni sui giornali. Ma questa è la bomba di chi? Mi sembri Otelma. È una bomba. Tutti pigliano i soldi. Lo stadio non si fa. Dov'è la notizia? Scusa. Dov'è la bomba? Lo stadio lo vogliono fare al Colosseo. Basta al Colosseo. Ma come al Colosseo lo stadio? Stanno discutendo da una vita se è giusto fare i grattacieli e tu fai lo stadio al Colosseo. Al Colosseo. Colosseo. Non Colosseo. al Colosseo, ma lo stadio, sono lì a postare. Ma come si fa a giocare, a far giocare la Roma al Colosseo? Scusa, cavaliere. Come fa a giocare? Come fa a giocare? Butto giù il Colosseo e fanno lo stadio. Ma questa sarebbe la proposta tua, non ho capito. Questa è la mia proposta, la proposta Italia Moraro. Ma e non quale sarebbe? Allora che non esiste Italia, ma non esiste. Ma quale come sarebbe la proposta? Scusami. La proposta è mia, lo stadio lo fanno al Colosseo. Ma come al Colosseo, cavaliere, dai, scusa, ma non si può fare una cosa del genere. La bomba, ma la bomba, quale sarebbe la bomba? Scusa, la bomba è il Comune di Roma, i 5 Stelle la mangiano tutti. Ah, questa è la bomba. Questa è la bomba grossa, da dove i documenti messi in mano, quando i documenti. Le mani. Quali documenti di cosa? I documenti l'ha ricevuto, quelli che ha ricevuto. Ma roba incredibile, dai, su, ma quali documenti? Non c'è tutte l'ha ricevuto, chi è ingassato di qua, chi è ingassato di là. Sì, c'hai tutte l'ha ricevuto, tutte le carte, mi sembra Taormina, mi sembra. Ma vabbè, comunque qualcuno ti manda ricevuto. No, io non ho capito ancora una ma cosa, com'è cavaliere. Che è cavaliere? Ma cavaliere di che cosa? Cavaliere, scusa, del lavoro sarà. Ma cavaliere lavoro? Del lavoro, Maria, il cavaliere Auriemmi, di cavaliere del lavoro, amico. Sì, vabbè, cavaliere, sì, del lavoro, sì. Senti, ma io non ho capito una cosa, perché i turisti dovrebbero stare due giorni a Roma? Questa è bizzarra come cosa, scusami, cavaliere. Ah, non è bizzarra. Due giorni a Roma, stanno due giorni a Roma e poi vanno a casa. Ma ho capito, ma se uno, se uno vuole stare dieci giorni, perché non ci può stare, cavaliere? Sono troppi. E come si fa? E i tassisti dunque devono governare, devono stare solo loro al centro della città? Ma solo loro al centro della città, solo gli autobus a casa, gli autobus in periferia. In periferia. I noleggiatori abusivi, tutti in periferia, solo i tassisti al centro di Roma, la persona seria di assistere, sì, solo i tassisti non lavorano, stanno, sì, in sciopero, sì, colpa di Renzi non ha trattato male. Gente loro sta trattando male, ma e fanno sciopero. Scusami, cavaliere, ma io vorrei capire un'altra cosa molto importante, molto, sì, molto importante. Tu che cosa ne pensi della marijuana, dell'hashish, delle canne? Che a Pomezia, tutto Pomezia, perché ce l'ha con Pomezia? Ogni volta, ma tutto Pomezia. Ma scusami, cosa c'entra Pomezia con le canne e con l'hashish? Me lo spieghi? Pomezia o Ciuda Vecchia? No, no, ma chi? Cioè, i drogati, dici? I drogati, o Pomezia o Ciuda Vecchia? Ho capito, ma cosa vuol dire? Ma chi si fa una canna, che deve fare? Chi si fa una canna? A Ciuda Vecchia o Pomezia? No, ma perché? Perché a Pomezia c'è il sindaco 5 Stelle, a Ciuda Vecchia c'è il sindaco 5 Stelle, uguale. No, è uguale. Io non ho capito una cosa, perché tu te la sei mai fatta una canna, cavaliere? Mai fatta canna. Mai fatta canna in vita tua. No. Uno spinello, sai com'è fatto? Nulla, sai com'è? Avrebbe migliorato fatto, la sua lucidità. Mai fatto. Naturale, deve essere naturale. Quando fai la scopata, fa naturale. Ma che c'entra la scopata con la marijuana? Il Viagra, l'hai mai preso il Viagra? Mai preso il Viagra. E ancora scopi? Quanti anni hai, cavaliere? Io 75, scopo come un riccio, 3 volte al giorno scopo io. Sì, vabbè, 3 volte al giorno, ma quando mai? Sì. Quando mai? Magari sei pure superdotato, magari, no? Italia morale, rispettiamo tutti. Ma rispetti tutti? A Pomezia, però c'è a Pomezia e a Civitavecchia. Pomezia e Civitavecchia, tu stai nel comune, tu comandi le grilline. Ma scusa, non ho capito, cavaliere. Tu scopi 3 volte al giorno, mi dici che scopi 3 volte al giorno? Sì, ma scopi donne di 25 anni, 30 anni, perché? Le mignotte. No, senza mignotte, io non vado alle mignotte. Io mignotte non ce vado a mignotte, io. Sì, un po' di Viagra lo prendo. No, dai, non prendo nulla, le trovo così per strada, ti batta la gente, poi la sedia, vediamo. Non ho capito, le trovi per strada? Per strada, batta la straniera, batte, sono bell'uomo. Ogni tanto la batto qualche donna per strada, ma diverti pure a me. Sì, ma non parla italiano, già questo mi pare abbastanza ostativo. Io tornato a Benevento, sono pure da Juve, io sono da Juve. Che c'entra? La squadra più forte siamo noi italiani, Juventini, ricorda? Crociano, Juventini, Crociano. No, io sono della Lazio, però va bene. Cioè, della Lazio sei? E quando mai sei della Lazio? Ma cavaliere, sono della Lazio, che devo fare? Cioè, ma vergogna, sei laziale, vergogna. Ma perché mi devo vergognare? Scusa, non ho capito. La Lazio non vince mai la Lazio. E vabbè, che dobbiamo fare? Ma vergogna da Lazio, Crociano, dai. Ma si scalda sulla Lazio, però. Basta che aiuto, dai. Vabbè, viva Italia Morale! Cavalieri, morale, froci, drogati, tutti a Pomezia e a Civitavecchia. A Roma solo tassisti. I tassisti, solo i tassisti a centro di Roma. Turisti per 2 giorni al massimo. I turisti 2 giorni e basta. Sì. E i politici? I politici sono tutti a casa. E chi comanda? Chi comanda? Tu? Comanda a Roma, la mafia, Camorra, comandano tutte. Questo è vero. Ciao. Facciamo una trasmissione. Una trasmissione da urlo! che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara. Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare la gente. Io non faccio la spalla dei pagliacci. Arrivederci. Fate la propaganda della droga. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Capito? Voi propagandate la droga. Siete due spacciatori, mascalzoni, delinquenti. Andate a fare il culo. E vedi che non fai parlare. Allora cosa mi chiami a fare? Sei un bugiardo, una persona in malafede, un miserabile cialtrone. Ma che cazzo dice il rabbino? Che masturbarsi fa bene alla prostata. Masturbarsi va fatto spesso, spesso, perché fa bene. Censuratelo. Amore, dai, perché non me la lecchi un po'? Cazzo, no, adesso c'è la zanzara, no, adesso non si può. Ma vai a cagare te, Cruciani, vai. Volevo dire qualcosa riguardo al grandissima inchiesta sul pelo della vagina. E sinceramente sono sempre stato un grande fan e sono d'accordo con l'ascoltatore. È decisamente tornato di moda ed è una moda che ci piace tantissimo. Oh, Grucio, stavo sul letto, no? Una serata tranquilla. Dopodiché a un certo punto comincio a sentire... Mi guardo, da ragazze mie, facciamo, ma che ti sei mangiata? Piatto dei fagioli. E mi fa: no, sono le puzzette vaginali. Io la guardo e gli faccio: io la guardo e gli faccio: no, vabbè, questa lo dico a Cruciani, le puzzette vaginali. A pare, ti è mai capitato, pare? Siamo al top. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno. Questo era Alex Magni, una visione opposta a quella del rabbino. Sì. Non mi dirai che tu non ti sei mai masturbato, rabbino? No, ma che c'è adesso questo? Mai in vita mia! Ma non è possibile! Ma mai lo farò! Hai un controllo assoluto sul tuo uccello, allora? No, ma non o no? Sulla mia bocca, sul mio uccello, sui miei pensieri, cerco di controllarmi. Ovviamente per sprecare il seme e masturbarsi non c'è bisogno un controllo, bisogna non essere idioti. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno. Ovviamente Parenzo è più dalla parte del rabbino che del pornostar Alex Magni. Ma immagino, non so, no? Non mi esprimo in merito, non so, ognuno, no, non ho una posizione specifica. Cioè, tra il rabbino e il signor Alex Magni, tu chi scegli? Tecnicamente il rabbino, ha ragione, perché dice che è uno spreco di energie, di tempo. Però, caro Parenzo, nella puntata più folle, una delle puntate più folli degli ultimi tempi, dove c'è stato lo sbrocco di Gasparri, eccetera, eccetera, quello che abbiamo sentito, il Cavaliere Auriem, tante cose, gente che si fa le dalla mattina alla sera, è gente che invece è più moderata, magari si fa solo una canna, gente che criminalizza le canne e gente che invece esalta l'arte cannatoria, cioè l'arte dell'hashish, di farsi una caraletta, di rollare, diciamo, no? Del rollaggio. Non poteva mancare un signore che io mi sono memorizzato sul telefono come Romanesco contro Cruciani e Parenzo. E per ricordarti chi è questo signore, nella puntata più folle degli ultimi tempi, che è quella di questa sera, beh, caro mio, ti faccio ascoltare un paio, anzi uno solo. Un solo file audio. Tutta sì importanza del cazzo che gli è stata da, che gli dai, Crucia. Te tieni buono Parenzo. Avete rotto il cazzo. Faccio bene io che non vi sento più. Stasera sono capitato per puro caso, come ieri sera. Hai capito? Fattene a fanculo, andate a morire ammazzati tutte e due. Sta azzardà a chiamarmi. Che vedenuncio gli mortacci vostra. Salvanno te li tutti, salvanno. A te, Crucia, meno che a quell'altra merda. No, la cosa che mi appassiona di questo personaggio, Davide, è il modo in cui dice le parolacce. Malimorte è il vecchio romanesco di quello che sì, di quelli che calca le parole, calca le parole. Lettere, scusa, le lettere. Ragazzi, alla fine queste persone vanno sentite, dice non mi chiamare che te denuncio, e chiamiamolo allora, chiamiamolo. Chiamiamolo, vediamo come ci risponde. Pronto? Sono il rabbino capo. Ti ho detto che non mi devi da chiamare, non mi dovete chiamare. Ma scusa, perché? Ma che male ti abbiamo fatto? Perché no, non mi dovete chiamare, perché proprio state proprio scendendo, cioè non è che siete stronzi, voi siete diventati proprio diarrea. Ma diarrea, ma che diarrea? Diarrea, sì. Ma chi perché è? Sì, perché sì, non me lo fa manco sentire quel testa di cazzo ebreo. Ma perché intanto... vaffanculo, sì, sei come il bradipo. Sei come il bradipo. Eccolo di qua. Sì, sei come il bradipo con quell'occhio a palloncini. Sì, quella... quello dell'era scatta glaciale. Scatta sì. L'acquerelina, scatta l'acquerelina. Ma me fai una pippa proprio, prezzo. Ma ricordati una cosa, lo dirà davanti ai magistrati. Sì, ma che davanti ma al tribunale. Paura. Foro competente tribunale di Roma. Sì, ma non ho capito, ma perché ci porti? Ma perché ce come l'hai detto tanto con noi? Scusi, perché non ce l'hai tanto con voi? Perché fate proprio schifo. Fa proprio schifo. Ma perché? Perché? Ma schifo fa lei? Ma come si permette? Ma come so a sentire più? Ma guarda, schifo fa lei? Chiamato. Ma ogni giorno trovo 3-4 messaggi, non ci senti più. Ma che cazzo ma dici? Ma che? T'ho rimandato un altro messaggio l'altra sera. Ma io voglio capire perché ce l'hai con noi. Spiegami perché ce l'hai con noi. Perché non mi piacete più. Ma quello è un altro discorso. Frega, ma chi se ne frega? Meno male. Allora, siete due pezzi di merda. Allora, tu sei una saluti merda. A tutti a casa. E quello è una. Quella è una diarrea. Eccola. Lui non ci stanno i rabbini che sono pedofili. Bello mio, se mi mettessi a dire quello che so io. Secondo me che sa lei? Ma lei non sa neanche. Tutti gli ebrei. Ma lei capito? Non sa ma neanche quando è nato lei. Terza querela per diffamazione. Siamo ma a tre. Siamo a tre. Quattro querele. Siamo a quattro. Ti busso dietro una spalla, Parenzo. Come ti bussi dietro una spalla? Che vuol dire? Ti busso dietro una spalla. E che fai minacci? Che fai minacci? No, non minaccio. Ti aspetto, un cazzo io. Ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Ti aspetto. Sei querele. Siamo a sei querele. Ma non ho capito, scusami, che è successo? Sei querele. Spiegami che è successo, perché fai così? Sei querele. Perché è uno stronzo. Ma che ha fatto? Che ha fatto? Sette querele. Ma perché? Spiegalo. Sette querele. Porco vinci. Spiegalo. Siamo a otto querele. Siamo a otto querele per diffamazione. A 10 ci vediamo in tribunale. Ma ti aspetto qua. Ma dove stai qui? Ci vediamo in tribunale. Vaffanculo a te qua a merda dei parenti. Comunque a me questo qua piace. Alcune persone, caro Davide, bisogna affrontare anche col sorriso sulle labbra, capito? Sì, vabbè, bisogna affrontare sì. Col sorriso. Questo qua è una maschera straordinaria. È la romanità greve, di quelle proprio che accompagnano la parolaccia in maniera lunga. Cioè non è che ti dicono vaffanculo, no, dicono vattene vaffanculo. Cioè, sì, cioè certo. Lo dicono, capito? Ma vattene vaffanculo, va, fanno così, capito? A pezzo de... Cioè lo dicono anche con una certa, non dico lievità, perché non c'è lievità. Beh, naturalmente no. Ma lo dicono scandendo lettera dopo lettera, capito? Ed è un modo straordinariamente teatrale. Ma vaffanculo a te qua a merda de Parenzo, capito? Cioè sì, no, si capito, potrebbe capito. Anche essere più brevi, invece lo allunga. Mohammed Bolzano, eccolo qui, vai Mohammed. Sì. Buonasera. Aspetta Mohammed, però scusami, già sei muslim, dunque sicuramente ti capiremo meno. E no, se... perché sto sentendo Cesare prima, è un fenomeno Dimmi Mohamed, dimmi. Aspetta, no, però deve... avvicina bene la bocca però alla cosa, se sì, puoi se... In auto, sì, sì. Se tua religione permette, tu essere innanzitutto tu essere muslim, mi pare, no? Essere devi sempre così. Tu essere muslim, tu essere cioè molto religioso, sì. Anche pregare ogni giorno, no? No, solo normale. Normale, allora come, dimmi. Come te? Come me? Io no, io sono zero. Ateo, io zero, per cui. Perché ateo? Ma tu lo dici Allahu Akbar o no? No. Non lo dici, nemmeno una volta? Ma ogni tanto alle manifestazioni, alle feste, diciamo, quelle religiose. Ah, alle vai alle manifestazioni, hai detto che vai alle manifestazioni. No, alle feste. Adesso. Ha detto anche alle manifestazioni. C'è qualcosa di sospetto, vai alle manifestazioni musulmane. Tipo la fine del Ramadan, tipo la fine del... Vabbè, ma sei allora sei islamico all'acqua di rose, diciamo. No, è un classico islamico italiano. Va bene, allora Mohamed, sì. Che hai da dirmi? Che hai da dirmi? No, siccome ho sentito, io sono dalla parte di del tuo collega, come si chiama? Di Parenzo. Eccomi qua, caro. Sì, sei dalla parte di Parenzo, te pareva. Sì, dell'idea di Parenzo che diceva che bisogna fare una moschea a sarebbe Milano. fondamentale. Ma che moschea a Milano, no, fare... Ma non può essere la priorità fare la moschea a Milano, dai. Assolutamente, garantire il diritto di culto a queste ma persone. Ma ognuno può pregare come vuole, dai, su. E toglierli dalla clandestinità. Fare una moschea a Milano e fare un cesto nello studio per mandare Cruciani a cagare. Sì, anche. Ma che vuol dire? Scusa, non ho capito, amico mio. Perché dicevi che non ti lavi, non è, e allora anche quello lì è necessario. Io mi lavo quando mi pare, ma sarei tu che non ti lavi. Io mi lavo. Non ti lavi. Si lavano moltissimo loro. Perché prima ma chi si lava? Sicuramente Mohamed è uno zozzone. Ma tutt'altro. Quante volte ti cambi le mutande, Mohamed? Io? Ogni giorno. Ma bruttissima questa cosa, bruttissima. Bruttissima, lo so, bruttissima. Proprio perché sono a contatto con la gente. E i calzini? Non ho capito. Sì. Le calzine due volte, mattina e pomeriggio. Bravo, vedi. Mattina e pomeriggio. Sì. Due volte al giorno, sei malato, sei. Cioè, no, non sono malato. Sei malato di mente. Curo le persone. Ma dimmi un attimo, ma che sei un medico? Sì. Fai il medico, Sì, un Mohamed. Dimmi un attimo, quando è che fai Allahu Akbar? Farai ogni tanto una cosa? Una volta, due volte all'anno più o meno. E com'è che si dice? Allahu Akbar. Come si dice? Allahu Akbar. Fammelo bene. Quelli non lo faccio, quelli non lo so fare. Fammelo bene. Allahu Akbar. Non lo so. Non lo sai. Vabbè, volevi dire che ci vuole la moschea a Milano. E ci vuole anche il cesso. Una battuta solo perché mi è simpatico moltissimo. Chi? Chi ti sta Parenzo. Simpatico? Parenzo, sì, eccoci, Parenzo. Figuriamoci. Sì. No, perché lì che deve prenderla con leggerezza, con molto simpatia con Cesare di Roma, non si deve arrabbiare. Cesare no, ma infatti, ma figuriamoci. La pepe della trasmissione. Ciao Mohamed, ciao. Ciao Claudio, ciao. Da Parma, vai. Mohamed da Bolzano, medico islamico. Claudio, vai. Sì, ciao, io ero intervenuto per dire due cose. Uno, vabbè, che spari un coglione, va bene. Io mi è successo la settimana scorsa, mio figlio 16 anni è stato fermato mentre fumava una canna, sì. E gli hanno dato, aveva neanche 2 grammi in tasca, gli hanno dato spaccio, detenzione ai fini di spaccio, quindi ti lascio immaginare tutta la procedura. Sì, ma non ho capito, ma quanto aveva addosso questo qua? 2 grammi. Ma io non lo so adesso con 2 grammi, non mi ricordo, non credo che gli possano aver dato spaccio. No. Detenzione ai fini di spaccio, articolo 73. Detenzione ai fini di spaccio, vabbè, e l'avranno beccato insieme ad altre persone, non lo so, dunque... No, si stava fumando una canna, per dire, a volte uno... Ma non è così, non può essere così, per 2 grammi detenzione ad uso per spaccio, non mi pare, dai, su. Ci sarà l'uso personale, no? La sto vivendo adesso, è capitata la settimana scorsa. Cioè non è che... niente, vabbè, io mi domando dove ho sbagliato come genitore. Vabbè, ma non hai sbagliato, non cominciare, ma l'unica cosa... Che hai fatto? Gli ha dato 2 schiaffi, che gli hai fatto? Vabbè, quella è la prima reazione, però dopo stai lì a capire come. Quanti mai anni ha tuo figlio? Quanti anni ha? 16 anni. 16 anni, gli ha dato 2 schiaffi, diciamo la verità. Sì, lì per lì glieli ho dati. Gli hai dato 2 schiaffi. In casa che mi sono trovato, lo avevo accompagnato a scuola, invece di andare a scuola aveva fatto sega. Vabbè. E l'altra cosa che invece che volevo quante dire... Quante canne si fa? Ma non lo so, lui dice che... secondo te? Sto elaborando, Cruciale, dammi il tempo, è appena successo. Claudio, che ti devo dire? L'altra cosa che volevo dire è per il fatto di Lavagna, no? Vabbè, dicono tutti mamma coraggio, eccetera, eccetera. Io da quello che ho poco che ho seguito, tu l'avresti chiamata la Guardia di Finanza se avessi beccato tuo figlio? Assolutamente, cioè? Assolutamente no. Assolutamente no. E poi volevo sapere. Ho saputo che lei non era la vera mamma. Ci mettiamo nei panni di questo ragazzino, cioè, che magari questo non c'entra nulla, però, ragazzi. No, secondo me qualcosa c'entra. Ma perché dite perché queste cose? Ma ci sono dei figli adottivi? Ci sono dei figli? Nulla. Ma non sappiamo. Però, i ragazzi a 16 anni a volte, cioè, lo sai, già pensano che tu sei lì a dirgli delle cose non perché lo fai perché gli vuoi bene, ma perché gli devi rompere solo i marroni. Io penso che questo ragazzo ha fatto quel gesto perché nonostante lui già si sia sentito abbandonato, magari non si sentiva dalla mamma, quando ha avuto questa spiata addosso e ha saputo che l'ha fatta la mamma, figa, bisogna anche leggerlo. Ah, tu dici, siccome quando ha saputo che la spiata è arrivata dalla madre, comunque che è stata la madre a chiamare la Guardia di Finanza e buttato la finestra. Ti sentito abbandonato ti posso dire una cosa, Claudio, pensa ai problemi tuoi con tuo figlio che hanno beccato. Sì, no, la per amor di Dio, siccome avete trattato anche questo problema. Ho capito, io ho tutta la comprensione del mondo per tuo figlio, però pensa a quello che c'è dentro casa tu con tuo figlio che è accusato di spaccio. Ah, certamente. Spaccio, non è bello lo spaccio, Lo spaccio. Due grammi mi sembra una follia. Lordi. Mi sembra una follia. Ciao Claudio, ti abbraccio. Ciao. Ragazzi, a lundi, come si dice in francese, a lunedì. Vai da corte, vai. Parenzo. Soca. Luciani. Soca. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma vaffanculo a te qua, merda de Parenzo. Radio 24. Libera la voglia di fare.